E rieccoci qui per una nuova puntata di Geek Cookies. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, a seconda del momento in cui sentite. Qui è Mario e oggi sarò il vostro host principale per una puntata, diciamo, un po' diversa dal solito. Poi vi introdurremo di cosa parleremo, di argomenti nell'inizio della puntata con un ospite di eccezione. Allora, come al solito, oggi avremo con noi il buon Francesco che ci supporta. Ciao Francesco. Ciao a tutti dalla caldissima Torino. E il buon Giuliano dall'ancora più caldissima Sardegna. Ciao caro. Ciao a tutti dalla Scandinavia. Sì, ti piacerebbe. Esatto, cominciamo con la S, va bene. Esatto. Allora, come vi dicevo, oltre noi stasera c'è un ospite che ci aiuterà in questo viaggio in cui non siamo molto esperti. E il buon Alessio Biancalana ha consentito a passare un pomeriggio, diciamo, qualche Mario ora con perso. Noi a parlare. Anch'io. Fondamentalmente... Prima, ok, ciao Alessio. Ciao. Ciao. Grazie di essere intervenuto, del tuo tempo e della tua, di portare la tua conoscenza a noi altri. Grazie a te. Ti stiamo perdendo, non so se c'hai dei casini con la banda in upload. No, io no. Mi è scoppiato il file server, quindi sicuro non sto scaricando, non sto tirando su nulla. Ah, quindi, adesso ti risentiamo. No, ma non ti preoccupare, registriamo le tracce in singolo e poi le mixiamo, quindi la qualità che sentite tra di noi non era quella che andrà alla fine. No, il problema è che non ti sentivamo proprio. Ah, sai che potrei fare? Tanto il video non ce l'ho. Potrei diminuire la qualità alla fine. Ma non so se posso fare. No, ma ora va meglio, quindi okay. Va bene così. Ci siamo, vabbè, il bello della diretta indifferita, tra l'altro. Ok, comunque stavo dicendo, l'idea fondamentale della puntata, che era nata da me, era quella di parlare di Open Data. In italiano si dice Open Data o Open Data, come in inglese, vuoi che già siete più esperti? Si dice un po' come te pare. Ah, ok. Diciamo dati aperti, così stiamo a posto. Yes. Allora, mi è venuta questa idea perché era un argomento che ho sempre, come dire, seguito con interesse, ho anche cercato un po' cosa c'è in Italia, nelle cose non italiane. Diciamo, è un argomento poi trattato a macchia di leopardo con eccellenze e non eccellenze un po' sparsi in tutto il mondo, diciamo, non è solo una cosa italiana. Comunque, tra i vari personaggi che mi sono affacciati sulla strada della ricerca di Open Data, sono incappato in Alessio e mi è spuntato in testa, ma io mi ricordo di Alessio da qualche parte. Effettivamente, quando siamo scritti, tu mi hai ricordato che anche tu facevi podcast un periodo, no? Sì, abbiamo fatto con Mattia Migliorini per il network Just in Tech un po' di puntate, un po' addirittura, non so se più di una decina, insomma. È un pezzo, è stato un numero discreto di puntate di Fospod, che era questo podcast su tecnologie aperte, open data, open source, eccetera, eccetera, in generale. Quindi rientra nell'argomento di stasera, cioè di oggi. Decisamente sì. Perfetto, ottimo. Senti, allora, prima di buttarci a pesce sull'argomento, vuoi farci una breve panoramica di tu cosa fai per dare agli ascoltatori un background, cioè di con chi stiamo parlando, cosa fai nella vita e, non so, quello che vuoi, i tuoi hobby, com'è che... Molto allora, stringato, non tutti i fatti tuoi, diciamo. No, vabbè. Allora, io innanzitutto ciao a tutti, sono Alessio Biancalana. Nella vita faccio lo studente, perché sorprendentemente studio all'Università di Roma Tor Vergata per prendere una laurea triennale che invento continuamente modi nuovi per non finire. Uno di questi è stato iniziare a lavorare per una società di sviluppo software che si chiama SourceSense, con la quale faccio il nerd, e oltre questa faccio il nerd anche nella vita privata, per cui adesso vi sto parlando da questa sala con due computer accesi e varie altre cosette, e, insomma, tante cose. Nell'ultimo anno sono successe tante tante cose, però diciamo gli hobby miei sono il nerdaggio su ogni cosa, principalmente Linux e le tecnologie aperte in generale, perché sono quelle che mi permettono di più di smanettare. Ottimo, sono completamente d'accordo, però vorrei ricordare che, se non sbaglio, in questo momento stai parlando da Windows, no? In realtà sì, prima stavo. In realtà non sto lavorando da Windows, ho installato Windows per giocare a Dark Souls, ma c'è il Ah, problema ecco. che ho la CPU costantemente al 100%, anche se non faccio nulla. Quindi Devi niente, adesso disinstallare sto. Windows è la Sì, soluzione, quella è la soluzione, però secondo poi devo disinstallare anche Dark me. È Souls, vero, quindi. ma virtualizza, che te ne importa. Eh sì, per No, infatti, giocare. No, per evitiamo. giocare, virtualizzare è la scelta più sbagliata Lo del so. mondo. Allora, console per giocare e Linux per il resto, questa è la mia Eh sì, filosofia. infatti c'è anche la mia PS4 qua, però non vorrei fare troppi spottoni perché poi sennò sembrava Giusto, veramente. giusto, giusto. Infatti, ok, allora passiamo alle altre robe di stasera. Io dico sempre sera perché ho sempre l'idea di sentire il podcast in serata in maniera tranquilla. Quindi, Con la birra. esatto, ah, bello, non col caffè come adesso. E invece, se volete usare un'altra accezione temporale qualsiasi, usate quella che voi, quella che volete, non vi preoccupate. Quindi, ognuno ha la libertà temporale che vuole. Ottimo. Allora, come stavamo dicendo, l'argomento principale che avevo in testa era quello degli open data, però come. Vedete poi nel proseguo della puntata questo, come dire, si mischia e si intrinseca con mille altre cose, concetti, eccetera. Quindi secondo me sarà una puntata in generale sull'open, forse non tanto sul software, ma anche su licenze e robe del genere. Quindi andiamo a iniziare fondamentalmente. Allora, cosa sono gli open data? Diciamo, è l'inizio di quello che vorrei far in modo che tutti sapessero. Allora, qualcuno di voi ha un'idea di. Qualcuno di voi ha già sentito parlare di Open Data? Adesso io penso di sì. Voi ragazzi avete un'idea? O una cosa che non vi è mai. Cioè, fino adesso, finché non ho proposto la puntata, è una cosa che non avete mai, come dire, sentito parlare o avuto una curiosità? No, sentito Sentito? parlare sì, parecchio. Diciamo che ho cercato qualche cosa quando tu hai cominciato a mettere i primi link. La cosa bella è che ho aperto il sito del governo sugli open data qui in Italia. Ho aperto 7-8 file a caso ed erano tutti not found, errore 505 e quindi ho pensato o c'è molto molto da fare ancora o sono stato molto iellato io. Un complotto, è sempre quello. Ah, io invece mi sono collegato al sito dove ci sono gli open data del governo per quello che riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione e ho scoperto che il mio comune spende un fottio di soldi in informatica e i servizi fanno. Non ci No, sono. non sono buoni, Non diciamo. sono Ma buoni. un fottio è un'unità di misura, no? Un fottio e Certo. mezzo, ok, C'è fottio e mezzo, sì, perfetto. Un infatti. mega fottio anche quando è tantissimo. Ok, quindi come dire, siete incappati un po' cioè, in due aspetti fondamentali di Open Data. Allora, cominciamo a definire la roba. Open Data, allora, i dati più o meno è una cosa di cui abbiamo parlato moltissimo anche nelle puntate scorse. Cioè, diciamo, i dati in generale sono qualsiasi cosa che viene generato, non per Non per forza, cioè, forza, di certo. nuovo c'è questa concezione che gli Open Data sono qualcosa di informatico, però i dati esistono da quando esiste l'uomo fondamentalmente, cioè, da quando si è cominciato a tenere traccia di qualcosa. Dal momento delle stelle alla produzione dei campi. Oggigiorno si parla di dati principalmente come oggetti che vengono storati e salvati e generati da computer. O molto spesso, anche nel caso della pubblica amministrazione di cui stiamo parlando, sono dati generati da, come dire, dalla pubblica amministrazione riguardo agli utenti, e quindi vengono generalmente anche inseriti in maniera umana e che provano anche da errori, quindi a generare dataset non. Come dire, coerenti e funzionanti e facilmente interrogabili, che è anche uno degli altri punti essenziali dell'apertura di questi dati. Comunque, allora, diciamo, un dato è un oggetto che viene registrato e che per poi, e di cui si può fare un accesso in seguito per poi poterlo analizzare, fondamentalmente. I dati aperti, di cui ci riferiamo oggi, generalmente vengono collegati con il concetto di open government, cioè governi che tendono ad aprire le proprie basi dati agli utenti per essere più trasparenti, però non è solo quello. Uno degli aspetti fondamentali degli open data è mi confondo sempre tra la pronuncia inglese ed italiana, quindi non fatemene una colpa, quindi sappiate di cosa sto parlando. Come dire, la loro caratteristica fondamentale è quella di essere liberamente disponibili per il riutilizzo, quindi un certo tipo di licenza fondamentalmente, correggetemi se sbaglio, dicevo, per il riutilizzo, per la ripubblicazione e senza diciamo, un copyright troppo restrittivo su queste cose. Penso in genere l'unico requisito che viene quasi sempre richiesto è quello della citare le fonti. Penso questo poi si apre a tutta una serie di di domande, come dicevate voi due, fondamentalmente se un ente, un istituto, qualcosa, mi mette a disposizione un dato, però in un modo, diciamo, molto difficile da cercare, in un modo che non è, che loro pensano aperto, però diciamo, di, per esempio, ho bisogno di un software molto costoso per leggerlo, in quel caso non vengono considerati come dati aperti. Quindi per uno degli esempi classici è quello della pubblica amministrazione che rilascia marea di dati in PDF, che poi vanno tirati fuori i dati per renderli in maniera analizzabile. Fondamentalmente quello che fa una persona media, Alessio, poi casomai dammi un po' anche della tua esperienza, quando tira giù un dataset qualsiasi di open data e cercare di analizzarli in qualche modo, cioè fondamentalmente quando io cerco dei dati cerco una risposta a una domanda che ho, cioè tipo, come diceva Giuliano, la mia pubblica amministrazione quanto spende per questo? E se io posso tirare giù un dataset in un formato, come dire, utilizzabile, posso poi in qualche modo interrogarlo e tirarne fuori conclusioni, secondo me a quel punto quel dataset ha eseguito la sua funzione primaria, fondamentalmente. Che ne pensate? Io penso che, secondo me, la cosa importante dell'open data è sapere che questo dato c'è. Per esempio, è una cosa che a me adesso manca, nel senso, io ho scoperto di questi indici in questi giorni, non saprei neanche da dove cominciare per cercarne. Mi interesserebbe sapere se c'è questo tipo di dato. Poi i file che ho visto sono dei CSV, tra l'altro, per esempio, il Comune di Torino ha l'archivio delle multe fatte, è un file che ho trovato, a parte che non è aggiornato, è all'ultimo è del 2014, ma c'è differenza tra i file del 2014 e del 2013. Quindi, come struttura, dice? Sì, come struttura. È open, ma se non so dov'è, se non so quanto è aggiornato, non capisco a cosa mi possa servire. Per esempio, io vedo utile come open data, ed è un utilizzo che vedo sempre nel comune di Torino, ci sono un tot di applicazioni che ti dicono quando arriverà il mezzo pubblico alla fermata. Quindi da qualche parte c'è il nostro gestore del servizio pubblico di trasporto che fornisce questi dati aggiornati. La domanda è: non c'è una directory dove ci sono tutti, oppure una chiave di ricerca furba? È questo che a me turba, perché si parla di queste cose che sono interessanti, magari si possono trovare anche dei dati che possono spiegare un tot di cose, ma io non saprei neanche da dove cominciare. Infatti quello di cui parli tu è open metadata in quel caso, cioè tu hai bisogno di informazioni sui dati, non i dati stessi. Sì, perché se non so cosa c'è, come è aggiornato, eccetera, è poco utile. No, hai perfettamente ragione. Diciamo che l'Italia si è dotata del... si parla di open data in generale da qualche anno e, diciamo, da un po' di tempo abbiamo delle strutture che, come dire, sono delegate semplicemente alla distribuzione dei dati. Dato un po'... io do le mie fonti, dato un'occhiata tra le varie cose anche a Wikipedia, e almeno da quanto dicono lì, in Italia si è cominciato a parlare di questa cosa tra il 2007 e il 2010 grazie a OpenStreetMap. Fondamentalmente, chi non sapesse cos'è OpenStreetMap, pensate a, insomma, un Google Maps, però open, quindi con tutte le mappe possono essere, sono open data fondamentalmente, quindi potete prenderle, utilizzarle, fare analisi spaziali, che sono anche dei dataset non solo di mappe ma anche di punti di interesse, quindi se uno vuole fare una ricerca su tutti i benzinai in una zona o distanze di percorrenza tra punti diversi, eccetera. Comunque questo è stato il primo esempio, e poi piano piano alcuni diciamo movimenti del governo hanno portato all'apertura di dati.gov.it, ricalcando l'amministrazione americana di Obama, che ha prodotto data.gov, che è, diciamo, un livello un pelo più alto. Problema grosso è che non c'è una coerenza, cioè, diciamo, anche le varie regioni sono poi divise, ogni regione produce i suoi dataset. Problema dei dati è anche uno grosso legato alla proprietà, cioè chi produce i dati spesso, come dire, tende a difficilmente a separarsene, quindi dare tutti i dati a tutti è un po' come regalarli, quindi la maggior parte degli istituti tendono con un modo o nell'altro a restare un po' proprietari di quel dato. Già averlo sulla propria pagina e non quella su di un altro penso che li fa sentire un po' più con le mani ancora legate ai propri dati, quindi sì, hai perfettamente ragione. E poi anche il problema della completezza. Alessio, tu hai un po' di esperienza sugli open data, ci puoi dire un po' quello che tu pensi o cosa sai degli open data in Italia? Allora, io fino adesso vi ho ascoltato in silenzio perché perché avete detto delle cose molto interessanti e sono cose che sono state dette chiaramente anche da altre persone, perché non, nessuno, cioè è veramente difficile in un mondo popolato da 6 miliardi di persone, 7 miliardi di persone, di qualcosa di originale, secondo me. Però cioè, misteriosamente, quando le persone poi diventano insider delle comunità legate agli open data, le problematiche che avete menzionato poc'anzi, magicamente ai loro occhi, secondo me, spariscono. Per cui dopo un po' diventa tutto un ah, guarda, c'è il nuovo dataset delle pinete di Rovello Porro. Sì, ok, bello il dataset, cioè, sicuramente ci staranno tutti i semi piantati di ogni pino col suo ID, il suo percorso di crescita, malattie che ci ha avuto, eccetera, eccetera. Però sì, ok, quello è quello di Rovello Porro, ma se io voglio correlare Rovello Porro col parco degli Appennini o con Yellowstone, non c'è sta nulla che mi consenta di farlo in maniera, diciamo, agevole. Ah, tra l'altro, scusate, ma avendo abbandonato, diciamo, il mondo delle registrazioni sia video che audio da un po' di tempo e avendo ripreso solo di recente, c'ho un terribile accento romanesco che non se ne va più via e quindi mi dovete tenere così. A me piace fa allegria il romano, quindi non ti preoccupare. Okay, spero non, anche gli ascoltatori. Non parliamo di accenti, per favore. Esatto. Abbiamo tutto, abbiamo i napoletani, napoletani tedeschi, sardi, torinesi, di tutto. No, in realtà allora, riguardo il problema della coerenza, è vero, non, allora, ognuno fa un po' come gli pare e non c'è, diciamo, una regola che dica ok, questa è la forma in cui tu, amministrazione, devi seguire, devi, diciamo, fornire i tuoi dataset, altrimenti io te boccio, io te meno, io eccetera eccetera. E però diciamo che finora l'open data è sempre stato visto come una pratica best effort, per cui se c'è c'è, okay. Se non c'è non c'è, quando c'è si cerca di non sgridare troppo chi lo fa perché è bello che lo faccia. Okay. E diciamo che però a livello tecnologico, a livello diciamo anche di belle speranze, siamo arrivati a un punto per cui non possiamo più permetterci che un dato set di tot dati venga non più aggiornato, venga fornito in una maniera astrusa tipo CSV, però inframmezzato da punti e non da virgole o da boh, non lo so. E riguardo però un hub dove reperire un po' di roba in più, un po' di roba diciamo quasi centralizzata, abbiamo l'Open Data Census di Open Knowledge Foundation, che riguarda proprio l'Italia, che è una roba diciamo crowdsourced, cioè praticamente tu loro che hanno fatto, hanno messo sta bella paginetta in cui tu puoi aggiungere i dataset delle tue città. Vi mando il link in chat. Già ho trovato comunque. Ok, niente, insomma, è quello sbagliato. C'è un ma po' scusa, di roba. Scusa, ma domanda, tu puoi aggiungere il tuo dataset o un link al tuo dataset? Cioè ho questi dati qui. Solo che io ti sto un po' perdendo. Mi senti? Prova. Adesso sì, ok. Dicevo, ma tu puoi aggiungere il tuo dataset? Ah, ok, questa matrice l'avevo vista. No, tu puoi, diciamo, puoi aggiungere l'informazione che esiste il tuo dataset o che puoi aggiungere, scaricare il dataset direttamente? Quella è la domanda. Sì, il dataset, cioè il dataset relativo a, che ne so, risultati delle lezioni oppure transiti in real time. Per quanto riguarda la tua città o comunque per una città di cui tu sei a conoscenza, e gran parte di questo censo è stato riempito durante vari hackathon e varie altre manifestazioni, andando in giro proprio a chiedere: ma ci sono sti dati? Sì, allora mettiamoli sul censo, proprio in maniera molto, molto zingara. Vabbè. E viceversa, sì, allora, per quanto riguarda il problema, diciamo, della paternità del dato e comunque del legame speciale che si crea tra un dato e chi lo produce, diciamo che nell'economia, non so all'estero perché realmente non lo so se quanto avviene questa cosa, ma in Italia è all'ordine del giorno. Diciamo, pensare alla pubblica amministrazione come un insieme di infiniti orticelli, per cui ogni orticello ha il suo dataset, le sue informazioni che per essere aperte, devono attraversare tutto un processo umano, perché la gente ha i dati nelle scrivanie e non credo, cioè, non, di solito gli è molto difficile separarsene per vari motivi, anche perché la conoscenza è potere. E Sì, io quindi. ho notato spesso che il fatto di essere i detentori di alcuni tipi di dati porta le persone a dire: no, dimmi quello che ti serve e io ti estraggo quello che tu mi hai Esatto. appena chiesto. Non, guarda, questo è il database, te lo cedo in sola lettura, facci quello No, ma scusa, che vuoi. Francesco, mi intervengo a gamba tesa. Al giorno d'oggi neanche te lo do. Al giorno d'oggi, dato che ci stanno i servizi on cloud che te li tirano in faccia, se ti do l'accesso in sola lettura, non ti do manco il dato, poi do la possibilità di accedere in un modo standard tramite query, quello che vuoi, una web app, qualsiasi cosa. È ancora più No, semplice. il fatto è che c'è poca gente che ti dice: guarda, ti do l'accesso, ti dicono: senti, io il dato ce l'ho, dimmi il tipo di query che ti serve così te lo fornisco, ma io mantengo il controllo assoluto di tutto il resto. È questo che ho notato spesso io. Guarda, no, Sì, volevo fare un questo altro, volevo sì, fare un una altro. cosa che ho notato anch'io spesso, ma allora, volevo fare un appunto dal lato mio. Ale, io sono, per lavoro faccio ricerca, quindi in ambito ricerca che è tendenzialmente pubblico, cioè. Io ti invidio molto. Vabbè, oddio, Dipende. dipende. Prima facevo in Italia, come dicevo in trasmissione, che lavoravo a Roma, facevo quello lì. Farlo in Farlo in Italia, Italia. non invidiarlo chi lo fa in Italia, perché proprio No, sono ben a all'estero. conoscenza. Guarda, ok. Comunque, non è meglissimo, però diciamo che ci sono. Almeno qua in Germania un po' più di modalità. Comunque, fondamentalmente, questa roba dell'open c'è anche molto nel nostro campo, perché fondamentalmente noi siamo pagati su soldi pubblici quasi tutti e bruciamo roba che dovrebbe rimanere pubblica. Però questa roba del piccolo orticello, cioè, vale ancora tantissimo. Non volevo andare nel dettaglio. Ma una cosa che ti volevo dire, allora, quello che dicevi del best effort nella PA, no? Fondamentalmente. Diciamo, la sensazione che c'è già se qualcuno fa qualcosa è tanto, quindi qualsiasi cosa è benvenuta. Esatto. Ok, però quello che mi chiedono, una cosa che io ho cominciato negli anni, cioè io non sono un informatico, sono un fisico di base, e ho cominciato a imparare per me roba di informatica, tra cui anche un po' di teoria di database, eccetera. Quando ho cominciato ad aprire le mie robe agli utenti, a parte mi sono scontrato con utenti che non avevano idea di quello che volevano, di come fare le cose, vabbè, quello è un altro problema. Però. Quando tu hai davanti un utente che sa quello che vuole, quando gli fornisci un dato, diciamo, uno in genere, almeno quando noi anche rilasciamo dati pubblici e li diamo a un ente come l'ESA o la NASA, noi abbiamo un ciclo di QA, cioè di Quality Assurance, sui dati stessi, non sul software. Cioè noi produciamo i dati con software che viene poi validato, eccetera. Poi i dati stessi, a mano che noi li rilasciamo, vengono validati anche quelli. Quindi è impensabile che io dia dei dati che non sono conformi a uno standard, che non siano, come dire, checcati in maniera automatica e poi anche umana che sono davvero conformi a uno standard. Cioè, è fuori dalla grazia proprio, è impensabile una roba del genere. La Sì, cosa che mi stupisce al giorno d'oggi è che l'amministrazione si permette di fare una roba del genere, quando poi gli esempi di chi lo fa in maniera virtuosa sono fantastici. Cioè, puoi, come dire. Io una delle cose che non riesco mai a capire è la pubblica amministrazione, della paura di darsi dati. Cioè, tu puoi, come dire, dare in mano a gente, diciamo come noi, o gente che in genere gli piace mettere le mani in robe tecniche, che può Che può darti un darti. aiuto fondamentale in robe che tu non hai le risorse per farlo. Cioè, che si mette a fare alcuni conti con i dati che dicevamo prima su parcheggi, traffico, quello che vuoi, a parte qualche azienda chi ha i soldi per farlo. Ci sono moltissimi esempi di privati che si sono messi anche in Italia per divertimento a fare robe che la PA non farebbe mai. Quindi secondo me è un ritorno alla pubblica amministrazione che perde grandissimamente. Ma allora, per dirti, allora, io adesso sto cercando proprio sul census di Roma, in realtà ci stanno tantissime cose che sono ferme al 2014. Infatti, mentre cerchi io descrivo ai ascoltatori una cosa, questo census che poi metteremo praticamente ti dà una matrice di sull'asse verticale tutte le province italiane e su quelli verticali sono vari tipi di dataset e per ognuno c'è una casellina di vari colori che indica, diciamo, la qualità dei dati. Cioè, fondamentalmente, se non sbaglio, ti dice se ci sono quei dati ci sono e che livello di qualità e competenza sono. Quindi si può velocemente vedere per ogni anno Roma 2015, traffico, e vedi c'è, non c'è, eccetera. Ed è un campo, una specie di cimitero sterminato di un sacco di roba che manca comunque. Sì, in generale manca tanta roba. In realtà una cosa che io so è che effettivamente come informazione nel mio cervello non è aggiornatissima, però spero che si continui a fare perché è una cosa che ATAC, nonostante tutte le criticità di cui soffre, faceva, che è praticamente diciamo le paline con su scritto l'autobus passa tra 5 minuti e l'applicazione su cui tu leggi l'autobus passa tra 5 minuti in realtà attingono a un API che è tutta open. Quindi fantastico, quindi teoricamente potrei farmi dei programmini miei per fare analisi. Sì, ma in realtà tante persone hanno già fatto appunto varie applicazioni che attingono anche da qua come fonte dati. E, il fatto è che secondo me questo è un campo molto pericoloso e è una voce scomoda all'interno del panorama open data. C'è quella per cui praticamente molti promotori degli open data hanno usato, ma anch'io ho fatto questo peccato ingenuamente svariate volte, hanno usato ripetutamente, diciamo, come detto, come assunto, il fatto che una volta aperti i dati il popolo, tra virgolette, sarebbe corso a utilizzarli e a fare tante magiche applicazioni. E in realtà questa cosa, viste comunque le caselline verdi all'interno del censo di Open Knowledge Foundation, si è cominciato a vedere che non accadeva così tanto e quindi diciamo sì, di base il ritorno alle pubbliche amministrazioni c'è, nel senso che comunque c'è sempre qualcuno che per curiosità va a spizzare i dati e quindi poi fa l'applicazioncina, la cosa. Però non sono così tante persone e diciamo quello che veramente poi rappresentano questi dati come possibile ritorno alla pubblica amministrazione è che in generale persone preparate si possono mettere là e fare delle applicazioni eccetera eccetera, ma soprattutto le amministrazioni possono eventualmente indire dei contest o comunque anche abbattere i muri che ci sono tra un dipartimento e l'altro. Che tante volte fanno tanto da soli pure quelli, nel senso che se io dipartimento A vado dall'assessore, dal responsabile delle pinete di Rovello Por, gli dico dammi i dati sulla pineta, quello non mi dà, poi però arriva qualcun altro che vuole fare open data, riesce ad abbattere quella barriera là, è una barriera abbattuta per tutti una volta sola e per sempre. Quindi in realtà anche diciamo per l'interoperabilità tra amministrazioni questo significa tanto tanto tanto. Secondo me anche per, cioè tu pensa nella stessa amministrazione, no? Ma c'è l'avvicendamento tra personale, non solo informatico, anche persone che ci lavorano. Sì, quando è avvenuta questa roba dell'open data, primo ti obbliga a commentare cosa hai fatto e cosa hai prodotto e a produrre in un formato standard. Quindi per me significa anche liberarli per loro stessi. Se tu pensa tra 10-20 anni, esatto, l'anagrafe del posto XY che gli sono incendiati i computer e devono tirare giù tutte le robe in un formato che non esiste più perché era stato scritto a mano dagli amanuensi 30 anni esatto. prima. Se fai una roba del genere, mi scarico giù da internet, sono commentati, posso usarli, quindi secondo me cioè, diciamo, è un patrimonio indispensabile per, anche per lo stesso produttore del dato, per la conservazione nel futuro, che poi deleghi la conservazione a un ente terzo, tra l'altro. Sì, in generale, diciamo, soprattutto l'aspetto di trasparenza è quello che viene più osteggiato dai vari tizi che fanno 9-18 a giocare a Free Cell su Windows XP. E poi, chiaramente, diciamo, tu hai parlato anche di un grosso processo di quality assurance per quanto riguarda i dati. Scusate la pronuncia inglese, ma anche io sono nella stessa barca. Non ti preoccupare. Esatto. E appunto il processo di QA per questi dati, se c'è è bello, però non, cioè, a volte non c'è. E l'unica cosa che ti posso dire è che io devo prendere il tram tra 5 minuti e ho l'applicazione che se mi dice 5 minuti o se mi dice 6 minuti, vabbè. Con i dati tuoi ci devono costruire le astronavi perché dobbiamo andare a terraforma Giove e quindi è un po' più complicato esatto. se sono sbagliati. Esatto. Terraformiamo 5 minuti dopo non cambia niente, però se sbagliamo posto. Vabbè, è... se sbagli esatto. posto, esatto. Ah, non era, non era. Vabbè, fa niente. Ok, no, hai perfettamente ragione. Tra l'altro, io mo nella prima sezione non ho tanto come dire. Idee da insider, però secondo me anche nei posti dove hanno fatto più lavoro per la produzione di Open Data e dove magari hanno messo qualcuno a fare solo quello, ma nella stragrande maggioranza dei casi hanno preso il tecnico del catasto e dice guarda tu fai Open Data perché va di moda o bisogna farlo, gente che probabilmente non ne ha mai sentito parlare, non so mai che cosa sono. Vanno totalmente in crisi e fanno oh mio Dio, ma cosa i dati dobbiamo regalare, quali dati, i dati cioè c'è un fogli di carta con la penna, sono tanto belli. Esatto. Mandiamo le fotocopie a chi le chiede, poi il prossimo passo sarà, una volta che ci avremo più caselle verdi, sarà la mia favoleggiatissima API statale per cui potremo accedere in modo standard ai dati, cioè in trasparenza su tutto. Tu chiedi, se la fai in Python ti faccio una statua comunque. Ok, faccio solo quello. Possiamo fare il driver in Python. Perfetto. Io vedo che comunque non c'è a livello di stato non c'è neanche una anagrafe unica, quindi il fatto di avere un unico modo per accedere a tutti questi dati qua la vedo veramente lunga. Sì, è futuristico, è probabilmente, non so nemmeno se avverrà mai, però prima o poi, secondo perché me. Purtroppo quello che ho visto soprattutto nella pubblica amministrazione ma anche nel privato di dati ce n'è tantissimi e secondo me con un occhio giusto a cominciare a confrontarli magari ci si accorgerebbe che si potrebbero risparmiare un sacco di energie e tempo per fare cose che vengono fatte nello stesso modo ottenendo lo stesso tipo di risultati in 10 città diverse, per esempio. Esatto. Ma lì vai a minare quella roba dei microorticelli, cioè per attaccarti alla gola e ucciderti, penso che... Ma sai cosa? È che dicono sempre bisogna tagliare, però tagliano su cose che sono belle sui giornali. Abbiamo lasciato a casa 10 persone che guadagnavano 500.000 euro all'anno, però continuiamo a pagarne 1.500 perché fanno le stesse cose che potrebbero fare in 15, per esempio. Lo so, d'accordo. Beh, si potrebbe diversificare, cioè molta gente potrebbe essere rediretta su... Questo è il suo discorso dell'open source, nel senso tu potresti ridirigere le stesse persone che fanno tutti, scrive a mano i fogli in cui ci stanno i dati che rimarranno lì, a verificare i dati. Ovviamente il problema della pubblica amministrazione è che tu non prendere le persone, diciamo, una vaga idea nel mondo dell'insegnamento, perché mia madre è una professoressa, e tu queste persone devi riqualificare, devi fare cose così nuove e innovative, perché la maggior parte della gente sta lì da anni, ha sempre fatto la stessa roba. quindi non per voler buttare, come dire, discredito sulla PA, però c'è gente che, cioè non però, c'è gente che sta lì, ha sempre fatto quella cosa, e non puoi dirgli da oggi a domani, tu da domani ti occupi di integrità dei database, e quello si spara probabilmente. Cioè, non beh, so, ma se però tu riesci a fare dei corsi di formazione, sì, e esatto, trovi delle persone che abbiano voglia di farli, perché no? No, certo, nel senso, certo, il fatto di svecchiare la mentalità, sempre che sia pubblica amministrazione o anche nel privato, io ho visto gente che si è lamentata in aziende private arrivando al punto di dire non uso più la posta perché gli abbiamo tolto Outlook e messo Thunderbird. Per il client si lamenta. Sì, giusto. Il problema è che uno devi identificare quelle che non sono così, ma le persone che hanno voglia di lavorare. Due, se hai dei dati che mettendoli insieme ti accorgi che stanno facendo esattamente le stesse cose e magari gli fai fare attività differenti. Il problema è che se le cose che vengono fatte non sono diffuse, nessuno sa. E questa cosa genera veramente uno spreco di energie pazzesco. Ma è una cosa, cioè, dal lato mio, una cosa che faccio per lavoro, che spesso non si vede. Cioè, come diceva anche Alessio, la cosa interessante di se si avesse una API, diciamo un'interfaccia per poter interrogare i dati a livello statale di tutti. Allora, il problema è questo: se tu hai il dataset di un paese e il dataset di un altro paese, allora loro hanno delle informazioni interne al dataset di ogni paese, per dire il traffico o qualsiasi cosa, le malattie, per dire incidenza di malattie, qualsiasi cosa. Se tu metti insieme due dataset, tu puoi estrarre informazioni che non esistono in nessuno dei due singolarmente, quindi puoi fare cross correlazioni tra incidenza di una certa malattia in periodi dell'anno, tenendo in considerazione la differenza di questi due posti, quindi hanno un clima diverso, puoi trovare fonti di, non lo so, di qualsiasi cosa, cross correlando oggetti di, cioè dataset uguali ma in posti diversi o in tempi diversi. Quindi l'accesso totale, secondo me, cioè adesso io capisco come quella roba che dicevi tu, che c'è poca gente che si come dire, attaccata a questa mammella di dati e la ciucciate, però secondo me quei pochi che l'hanno fatto, ci sono diverse robe interessanti di produzione di conoscenza aggiuntiva, fondamentalmente quello è, cioè elaborare i dati che sono presenti e farne qualcosa, trasformarli o generare cose che non esistono in partenza. Io avevo una domanda che forse secondo me adesso può rispondermi, quello che diceva Francesco, no? Sul fatto che i dati, allora la prima domanda che ha fatto su dove trovare i dati, cioè cosa esiste, cosa non c'è, cosa c'è, e ne abbiamo parlato un po'. L'altra roba è la struttura dei dati. Tu magari sei un po' più esperto, io leggendo un po' in giro, non sono un esperto di dati, c'è un modo stand, cioè esistono vari modi per descrivere la struttura dei dati, se non sbaglio, no? Che si chiama, ah, non viene. Allora, forse sintattica dei dati, no? Tu stai cercando le ontologie, vedi che esatto, la persona giusta qua, come sei ontologico, bravo. No, guarda, allora diciamo che uno dei miei migliori amici è una persona che si occupa di ontologia 8 ore al giorno, anche 9-10, ok. Quindi ne sa, noi metafisico, ok. Io gli voglio un sacco bene, voglio esplicitare il mio amore per lui anche in questa sede davanti al nostro pubblico, così poi quando riascolta, perché sicuramente anche lui, sì, no, vabbè, ma lui lo sa che io gli voglio un sacco bene. Okay. No, a parte gli scherzi, tu stai cercando le ontologie, il problema allora, secondo me, e io non sono un grandissimo esperto di ontologie, perché là andiamo proprio sul virtuosismo dei dati, ovvero tu c'hai un dataset A, poi c'hai un dataset B, e poi c'hai appunto questi due dataset completamente sconnessi tra di loro, per cui che c'hanno anche le stesse informazioni dentro, ma uno è un array di liste, un altro è una mappa di oggetti, cioè proprio cose a buffo diverse, eccetera. E, a parte il formato, per cui uno è in JSON, un altro è in CSV, eccetera, eccetera, alla fine finisci per averci un sasso e un unicorno che in realtà parlano delle stesse cose. E una maniera di fare questa cosa qua, di cui io non sono particolarmente esperto perché non è mai l'ambito di cui io mi sono interessato, io mi sono molto interessato ai dataset unici come entità, In realtà, appunto, la maniera di correlare due dataset è proprio il mapparli tramite un'ontologia unica. Per cui tu descrivi un oggetto che è la tua ontologia, che diciamo rappresenta i tratti in comune del tuo ente, e dopodiché tu mappi l'ontologia sul database 1 e sul database 2, per cui poi quando vai a cercare i tuoi dati, li cerchi con l'ontologia mappata e sostanzialmente vengono ricercati i due dataset in maniere diverse, ma Ok. con l'accortezza di cercare lo stesso contenuto in due maniere Fondamentalmente diverse. potremmo dire che come fosse un livello di astrazione. Anzi, io Sì, chiedo. praticamente è un livello Ok. d'astrazione che ti consente di mappare tramite appunto un livello di facciata varie basi dati che come formato sono inconsistenti. Ok, quindi E in fondamentalmente. Italia, sì, scusa, dimmi. No, dicevo, giusto per capirci, come dici tu, ne abbiamo due dataset con scritto. Ci siete? Sento un ritornino, sono io. Dicevo, se abbiamo Oh, questi due pardon. dataset in formato completamente diverso, però ho l'ontologia che mi descrive la sua struttura di ognuno di questi dataset, io da su posso dire dammi il numero di persone che sono venute qui questo giorno e lui mi dice ciò fuori da quello e quell'altro. Quindi come una sorta di driver in mezzo che trasparentemente mi permette di poter tirare roba fuori da tutte e due, senza dovermene più occupare. Yes. Ok, ottimo, quindi mi hai. E principalmente questa cosa dovrebbe portare poi ai linked data, ossia a dati collegati, cito Wikipedia, secondo appunto è una modalità di pubblicazione di dati strutturati atti ad essere collegati fra loro e quindi utilizzabili attraverso interrogazioni semantiche. E bla bla bla, questo rende possibile collegare e utilizzare dati provenienti da diverse sorgenti. Senti, visto che ci troviamo, definiamo un attimo anche semantico per chi non dei nostri. Io vi Sì, propongo di andare più in al basso. Andiamo più al basso dove mi trovo io, per favore, perché qua sta andando troppo in alto. Ma fermaci tu, eh. No, no, perché voi, cioè, state parlando troppo difficile per me, capito? Poi ti facciamo gli Sì, Emilio. esempini. No, ma è esattamente questo, cioè tu pensa al dirigente del comune, no? Che tu vai là, gli vai a parlare di open data e poi gli cominci a parlare di web semantico, Deontologia. RDF, JSON LD e deontologie. Quello dice, Secondo me ma questo che scoppia. cazzo sta a dire? Cioè, Dice proprio what the fuck? così. Esatto. No, Ok. guarda, anni fa le ontologie andavano fortissimo, sono state proprio per un sacco di anni la moda dell'open data, ah no, le ontologie, poi a un certo punto è stato compreso da vari personaggi e da varie organizzazioni che se continuavamo a parlare di ontologie penso che veramente, cioè non lo so, erano due i dataset che potevano Ok. contare e quindi alla fine si è portato tutto a un livello decisamente più, se vogliamo, più triviale, per cui ragazzi, cioè, prima facciamo i dati e poi dopo pensiamo alle Come ontologie, alle ok, cose. giusto, è Infatti ancora vero. stiamo là. Esatto, ma quello è un grosso problema che ho visto io. Quando uno si comincia a mettere in mezzo in questa roba dei dati, comincia ad andare sempre più su. Cioè, tu cominci, mi devo fare un file testo con dentro. Non so cosa ho mangiato oggi e finisce Esatto. l'ontologia dopo qualche Esatto, anno. no, infatti, Pazzo. ma esattamente come quando devi fare un'applicazione web che ti restituisce Hello World e poi fa return Hello World, oppure un phased che chiama una factory che costruisce un oggetto che by reflection ti fa Hello World. È una roba, Scusate, è una t'ho roba. perso un attimo, ripeti l'ultima Ma hai frase? perso un attimo? Non Sì, so se t'ho. la mia fidanzata sta guardando Netflix Esatto, in bellamente HD qui. con tre Vabbè, se sta schermi. guardando Netflix, sei autorizzata a batterla oppure a staccarle il PC? Secondo me No, la no, batte lui, lei a lui dopo, non è il no, che problema. poi dopo succedono i casini, poi Esatto, non mi esatto. sposo più, è un bordello. Vedi, vedi, è tutto legato, è tutto linked qua, altro Tutto che. linked, tutto ontologico, tutto. Bravo. No, comunque per farla semplice, dicevamo, fondamentalmente la roba dell'ontologia è descrivere i dati, quello che chiedeva Francesco. Cioè tu da una parte hai scritto questi sono i dati del comune Pinco Pallo, questo dataset qui dentro è fatto così e queste colonne fondamentalmente... Esatto. Allora, non, correggimi se sbaglio, l'ontologia ti descrive solo la struttura, poi la semantica ti dice ok, la colonna grzz è numero di passeri per al giorno, per dire. Sì, in teoria sì, è un linguaggio di query che fa questa cosa, si chiama... allora, l'applicazione è Virtuoso. Aspetta, ah, che... ok, l'avevo visto. Aspetta, c'avevo una tab aperta perché una serie di esempi potevo da portarvi. Ma questa è una roba in Sparkle. Esatto, SparkQL. Sparkle. Io l'ho usato la prima settimana che sono entrato in Source Sense e ho deciso che era meglio se mi sparavano. Cioè, io ma dai, sembra così bello, non l'ho mai usato. No, ma questo perché tu sei abituato a lavorare sui dati, eccetera. Io so molto più, cioè io so veramente, cioè, io veramente da chiave inglese e pappagallo, quindi... Io da solo mi sono partito da cos'è un database a farmi database Postgres così a colazione. Bravo che usi Postgres. Mamma mia, Postgres tutta la vita proprio per sempre. Quasi sfocia sui fanboismi delle basi di dati. No, ma io lo uso per dati spaziali, quindi cos'è? Un altro layer di difficoltà. Ah, quindi, giusto. Vabbè, dati spaziali non c'hai pure. No, aspetta, scusami. Prego. Postgres. Dati spaziali c'hai pure, sì, a parte PostGIS, pure le query geospaziali di MongoDB. Guarda, MongoDB. Allora, un momento. Qualcuno ci fermi se ecco, sì, infatti no. MongoDB è no SQL se non sbaglio, no? Sì, esatto, è il più famoso nel mondiale, sì, sì. Di database no SQL. Allora, giusto per ricapitolare un attimo, il database di cui stiamo parlando, Postgres, diciamo, è l'equivalente open source libero di Oracle, per dire, è un database strutturato tipo MySQL, però di una violenza a livelli più infiniti, diciamo. Ma nel senso che è può gestire dati quanti ne può gestire Oracle? Di quello dipende dalla macchina su cui lo mette, però in teoria sì. E diciamo anche a livello di funzioni, se non sbaglio, quasi tutto quello che fanno i database Oracle stanno lì. E sì, sì. Diciamo sono allo stesso livello. È come avere, per dire, OpenOffice e Word, per dirti, come idea. Oh, non mi picchi, okay, nessuno mi picchi. Mentre diciamo MongoDB è l'esponente di un altro, diciamo, movimento che c'è ad oggi molto forte, è quello dei NoSQL. Diciamo i NoSQL sono database non relazionali o non strutturati, non mi ricordo esatto mai la non la relazionali, sì. Non relazionali. Quindi fondamentalmente ogni diciamo, se avete un'idea, pensa a un database come un'enorme tabella Excel, no? Diciamo, bestemmio, però diciamo, per darci un'idea, una sola tabella. Nella database relazionale una delle cose principali è che la tua tabella ha sempre la stessa struttura, quindi se tu hai molti campi diversi avrai un sacco di campi vuoti perché devi riempirli, perché devi avere sempre la stessa struttura ogni riga e alcuni pieni. I NoSQL superano questa cosa dando la possibilità di poter fare righe di dimensioni diverse, che da una parte, diciamo, cioè, molti dicono che sono meglio per alcuni motivi, poi secondo me sono un grosso trend ultimamente, cioè per quello che faccio io. Ma no, io non li uso praticamente mai, perché i nostri dati sono quasi tutti strutturati. Allora, poi quelli relazionali hanno anche il vantaggio che possono definire relazioni tra vari oggetti che tu metti dentro. Quindi se io metto un campo codice orientato postale deve essere formato in un certo modo, per dire. Deve essere legato al risultato, se esiste in un'altra database quella roba. Se non esiste non puoi metterlo, per dirti. No, ma un'idea. Infatti probabilmente a te serve così e... No, SQL non te porterà mai da nessuna parte. Vabbè, no, per alcune, diciamo, applicazioni piccole potrei pure usarlo, piccoli database di cose che io ricavo dai dati che lavoro. Robe, io sto lavorando molto, sto cercando di entrare molto nella roba del machine learning ultimamente, no? Uh-huh. E lì abbiamo robe in cui come output ci escono cose di dimensioni molto diverse e tantissimi oggetti, quindi in quel caso un database non relazionale potrebbe essere utile per storarli e poi tirarli via di nuovo. Per darvi un'idea, l'esempio dello scemo del database non relazionale è JSON, cioè un file JSON è strutturalmente un database non relazionale in cui tu ogni riga ci metti quello che ti pare. MongoDB è un affare che ha delle API per cui tu stori del JSON. Esatto, e infatti è fatto così. Mentre l'equivalente per, diciamo, l'uomo comune della base relazionale è un CSV, in cui la struttura è sempre la stessa, se no scoppiano gli interpreti. Scoppiano anche le persone che devono mettersi lì a analizzare dei CSV fatti male. Ti è mai capitato quando alla fine c'è una virgola, un carattere non asci e robe del genere? E quando lo vai a leggere dice no, non va, e tu vai lì e dici che cavolo è che non va? Su magari un giga e mezzo di Sì, CSV, esatto. divertente. Capita, capita. Ok, quindi eravamo arrivati, stiamo parlando della struttura, ok, di come poter, diciamo, capire la struttura di un certo dataset. Diciamo, per chiudere la questione, fondamentalmente, anche sul sito che ci ha dato Alessio, sul Census, tu fondamentalmente vai a, sul singolo dataset, vai dal fornitore, se loro lo forniscono, e in genere c'è una documentazione. Quella, diciamo, è l'ontologia per l'essere umano, non per la macchina, però vai lì, ti leggi, ci sono queste tabelle, c'è scritto questo, e dei numeri significano questo, per dire cose stupide, cosa fare in un database quando tu a un certo, a una certa casella non hai una misura? No, ogni persona risolve il suo problema in modo diverso. Chi ci mette null, chi ci mette none, chi ci mette 6000. Esatto. Quindi tutte queste cose vanno lette e capite quando tu vuoi fare un'applicazione che legge quei dati. No, quindi la La documentazione è documentazione. essenziale. Sì, vabbè, la documentazione è sempre essenziale. Cioè, Nella vita in generale. dico, mi esibisco nel dire l'ovvio, però la documentazione, fate la documentazione voi ascoltatori, perché La se non avete sera? fatto la documentazione arrivo io e ve Esatto. meno. E la sera invece di stare a sentire a noi, cioè dopo aver sentito noi, documentate tutto quello che fate, così in futuro ci ringrazierete. Esatto. No, ci ringrazieranno anche altri perché la cosa è sempre che tu fai, non documenti, te ne vai e poi dopo chi arriva dopo di Ma guarda che è una cosa che leggo spesso, la persona che più si incazza di questa cosa è il tuo te futuro quando devi mantenere la tua applicazione che non hai te. Ha voglia. documentato e ti bestemmi da solo. I bei commenti Dear Future Bravo, Self. ho scritto Dear Future Self, fallo tu. Poi so, Esatto. cavoli tuoi. Senti, io un'altra domandina che avevo, una cosa che viene sempre spesso quando si parla di open data è quando questi dati non sono rilasciati. Io poi ho un paio di esempi che potrei pure accennarvi, ma io posso prendere, cioè faccio scraping di dati che sono in qualche modo sul web. Posso prendermeli, cioè tipo un'amministrazione, tipo i dati che dicevi tu del traffico dei mezzi pubblici per dire, o di altre robe. Se l'amministrazione non li fornisce tramite un API o li fa scaricare, una roba del genere, se io prendo e me li tiro giù perché li fanno vedere sulla loro pagina web, secondo te posso farlo? Aspetta un attimo perché stanotte ho fatto le 3. Ok, Ah, ottimo. sì, vabbè. Allora, l'amministrazione fornisce siti web e tu vuoi fare scraping. Esatto. Allora, io non so se questa cosa a volte possa essere definita non legale, È un'area grigia. però in Italia c'è un'altra cosa a monte, diciamo, e cioè Ok. che allora io non so quello che ti sto dicendo se è corretto o meno perché ci vorrebbe un avvocato. Oh, abbiamo perso. Franceschino, lo ritiro su, tu vai tranquillo. Allora, io non so perché ci vorrebbe un avvocato, io queste cose non me le ricordo. A me di solito piace fare cose, saluto a tutta la polizia in ascolto, ma a me piace fare cose non curandomi se siano legali o meno, Ci pensi quando dopo, mi diciamo. sì, cioè, a un certo punto dico, ah, ma sta cosa è illegale, e mi fermo. Però, in realtà c'è una legge italiana che dice che ove non specificato, tutto quello che viene fornito via pagine web o via qualcos'altro, quindi pure i PDF tanto sputati da tutti, eccetera, tutto quello che viene fornito appunto da pubbliche amministrazioni attraverso qualsiasi mezzo è open by default, il che significa che tu non solo te lo puoi leggere, ma lo puoi redistribuire, lo puoi appunto rimettere in forma di API, di JSON, Ok. Quindi eccetera, pubblico eccetera. è pubblico Il fondamentalmente. pubblico è pubblico, quindi se tu vai a fare scraping di un sito di una pubblica amministrazione, puoi farlo. E non so quando tu non possa farlo, perché non me lo ricordo. Guarda, io penso che magari l'unica cosa sono quei casi in cui quello che dicevi tu, se le informazioni sono in qualche modo sensibili, cioè un grosso problema grande in generale che ho sempre visto in Italia è se quello che io ti dico poi mi mette in posizione di essere penalmente responsabile se ti capita qualcosa. In quel caso oggi con i dati non te li puoi prendere, penso. Cioè, è una cosa, io ho un padre avvocato, quindi è una cosa che ho sentito mille volte. Ah, ok, perfetto. Quindi per dirti, se tu, che ne so, vai in giro bendato leggendo solo i dati di percorrenza dei trasporti pubblici, sicuro che con quello sai quando non passa l'autobus e ti secca un autobus, probabilmente non potrai fare casa a causa allo Stato perché ti hanno ammazzato, è una roba del genere. Okay, quindi in quel caso, o che ne so, robe qualsiasi sull'inquinamento, cioè tutto poi dipende anche da come vengono fatti questi dati, no? Sì, a monte. Infatti, cioè, sempre perché dicevamo che non c'è un processo di assicurazione della, esatto, qualità. Quindi andiamo bene. Senti, io su questo avevo un esempietto che avevo sentito, che volevo dirvi. Come dicevo prima, io sono un paio d'anni che mi sono legato mani e piedi a Python, prima da quando cominciavo a usare Vim sono impazzito fondamentalmente. Okay. E non sono più riuscito a uscire da Vim, questa è una battuta fantastica che fanno tutti. Io vorrei solo dire che Mario, esatto, cose, mannaggia, fammi quindi se vuole... Io vorrei solo dire che se Mario è stato catturato da Vim, questo è il messaggio, esatto. giusto, oppure lo aprite e non lo chiudete mai più. Cioè io mi sono ultimamente sono trovato a facendo script per Vim, che è una roba, come ho scritto, è scritto praticamente Vim script è klingoniano dialetto, cioè una roba assurda. Comunque, stavo dicendo, sono andato un paio di volte a dei meeting, cioè la comunità Python fa alcune conferenze come tutte, però c'è una in particolare che si chiama la PyData, in cui si occupano solo di dati. Ci sono alcune framework di Python che hanno cominciato, fatte da aziende tra l'altro, in cui si occupa fondamentalmente di analizzare, strutturare e poter, diciamo, maneggiare dati. Poi se volete vi metto qualche link in generale. Cioè il più famoso tra questi è il framework di Pandas, per dire. Comunque, in questa conferenza dove è andato una volta, ho sentito una bella presentazione su... Era un gruppo di Open Data, tra l'altro, di Dresda, e loro hanno parlato un po' in generale di alcuni progetti che hanno fatto, e tra l'altro io ho scoperto che Google in generale... come dire, spinge molti di questi gruppi locali di open data fondamentalmente per poter fare in modo che gli hacker locali si tirano giù i dati e loro se li inculano e li usano. Quindi uno dei modi perché Google si tira giù i dati, tipo di percorrenza delle robe eccetera, tutto il mondo, è anche, diciamo, in maniera anche virtuosa secondo me, però con un proprio tornaconto, cercare di tirare avanti la comunità open. Comunque, un esempio che loro avevano fatto è esattamente questo, di roba che era messa pubblica però non la potevi tirare giù, del... occupazione dei parcheggi cittadini, no? C'è una serie di parcheggi grandi che penso anche a Roma ci saranno, cioè ci sono sicuramente, ma avranno anche loro l'indicatore di quanti posti ci sono liberi, no? Allora, vi confermo che c'è anche a Torino, non per tutti ma c'è. Allora, senti la figata che hanno fatto loro. Allora, dato che i dati non c'erano disponibili, ho detto vabbè, facciamo uno scraper e ce li tiriamo giù giorno per giorno. L'hanno fatto per un paio d'anni e quindi hanno avuto l'andamento per un paio d'anni dell'occupazione, quindi quanti posti ci sono su tutti i parcheggi all'interno della città, no? E uno dice vabbè, ho questo dato. Loro che hanno fatto una fantastica applicazione tramite machine learning, per cui hanno creato degli algoritmi che possono prevedere per un dato giorno quanta occupazione ci avrai. Cioè, ah, tipo, figata. Tu, è una figata, tu dici allora io vado venerdì alle 8 al centro, che probabilità ho, conoscendo 2 anni passati di dati, sapendo che venerdì prima delle vacanze di Pasqua è stato aperto il giorno prima, il giorno dopo è chiuso, a quest'ora quanti posti probabilmente avrò? E tu hai un'idea, ovviamente non sarà al 100% accurata, però conoscendo l'andamento passato, basato su dati che dovrebbero essere pubblici, puoi avere un'informazione che secondo me salva la vita a molta gente per infarti, perché vai lì e litighi eccetera, robe del genere. Cioè, esatto. Tu non puoi sapere come potrei, cioè già ho scritto in privato che sta cosa dei parcheggi è fantascienza, perché a Roma, esatto, dovresti mettere i sensori sulle doppie file di marciapiedi, esatto, posti che la fisica non permette, diciamo. Sì, esatto. Cioè, ma il sensore per la doppia fila serve più che altro per capire se riuscirai a uscire in tempo per arrivare al lavoro, contando quante macchine hai davanti, esatto, alla tua sonar clacson. Ragazzi, io ho abitato circa una decina d'anni a Napoli e mi è un periodo al centro, e quindi, cioè, io sono stato anche a Roma e ti dico che il traffico, beh, Roma ce n'è di più, però è più fantasioso a Napoli, ti dico. A Napoli, e un paio di volte mi è capitato di parcheggiare la macchina in dei posti e non l'ho potuta prendere per 2 giorni perché avevo una doppia fila di doppie file intorno quando andavo a prenderla. Dovevo andare nel cuore della notte per tirarla via, perché sennò cioè mi è capitato davvero. Quindi... E ti sei esibito nei tuoi migliori insulti napoletani. Esatto, tipo, ovviamente. Uè, vaio, eccetera, eccetera. E io sono, come dire, un apprendista di napoletano, perché non sono di Napoli. E quindi sto ancora imparando. Quindi per dirti, questo è un esempio, loro facevano proprio questo esempio perché, diciamo, avevano chiesto all'amministrazione che esplicitamente ha detto no, questi dati non li potete avere, non potete fare lo scraping, è vietato. Ha detto vabbè, allora noi ce li mettiamo da parte. Poi hanno fatto anche delle applicazioni, cioè tipo per Android o perché voleva dire giù dati, web app se non sbaglio. Però hanno detto guardate, non fidatevi troppo perché comunque è una zona grigia, eccetera. Quindi è un esempino di cose che secondo me si potrebbero fare con dati pubblici. Sì, calcolando, in realtà io mi ricordo ancora una cosa stupenda che avevano fatto, aspetta che adesso ti stupisco. Io ho anche un'altra domandina e poi andiamo avanti perché già stiamo allungando un sacco il brodo per altre robe. No problem. No, perché qua sta da parlare. No, ma perché allora noi scaletta, noi cioè mazza, come siete tecnologici, comunque c'avete pure la scaletta, cioè io non lo so, io non c'avevo quasi mai la scaletta. Ma tu hai visto che in genere buttiamo robe dentro la rinfusa, non è che se abbiamo. No, ma sai cosa? Il problema grosso è che se non mettiamo la scaletta abbiamo 2 grossi limiti. Il primo è che ci dimentichiamo assolutamente di quello che dobbiamo parlare e magari a fine puntata diciamo porca miseria c'era anche quello, oppure cominciamo a divagare più di quello che normalmente si divaga e le puntate vanno verso le 2-3 ore, quindi diciamo che è un modo per controllarci. Ok. Mia moglie dopo un'ora e mezza arriverà con l'accetta oppure con mia figlia urlante me la lancia, quindi... E oggi non ci stiamo controllando. No, infatti per niente. io mi si è piantato tutto, quindi per me siamo a 7 minuti di conversazione. Sei svenuto e ti sei ripreso adesso fondamentalmente. No, io allora nella nostra scaletta dicevamo c'erano anche gli hackathon, che allora per me particolarmente sono un tema delicatissimo, nel senso che vengono in generale, ma anche non riguardo Open Data, riguardo altre cose, vengono organizzati questi hackathon per cui ci si aspetta una partecipazione fantasmagorica, quando in realtà le persone che sanno scrivere software in Italia saranno tipo 3.000 in totale, quindi cioè se fai 10 hackathon... E la maggior parte non viene, tra l'altro. La maggior parte poi non viene perché magari non c'hai comunicazione efficace o quello che te pare, e quindi in realtà la realtà dei fatti è che siamo sempre i soliti a sti hackathon. Però a parte questo tocco di larità, noi avevamo provato a fare una cosa che è venuta, cioè io ci ho provato con molta calma e con i piedi abbastanza di piombo, e invece è venuta una cosa fighissima. Nel 2014 abbiamo fatto un hackathon direttamente dentro la Camera dei Deputati. Wow. E facendoci addirittura rilasciare il permesso per stare la notte lì, rompendo le palle a Mari e Monti. No, infatti è stata una cosa fighissima. E a Mari e Monti o all'epoca c'era Mario Monti? Cioè, scusami la battuta, ma stava. No, effettivamente c'è sta la battuta e no, c'è stava già mesa qualcun altro dopo Monti, che era Renzi, che ne so. Buono X, sì. No, e come mai anche la notte poi, scusa? Non ho capito. Perché poi anche la notte? Per continuare a hackare oppure per... Sì, tenere... sì, per continuare a hackare, perché abbiamo iniziato il pomeriggio del primo giorno e abbiamo finito il pomeriggio del secondo giorno e abbiamo fatto proprio la maratona. Il numero di birre utilizzate, Coca-Cola, ma guarda, c'è stato un vero problema da questo punto di vista, perché in Camera dei Deputati in aula non si può portare la birra, non si possono portare alcolici, e quindi è stato, cioè, però nonostante questo io ho capito dove vengono spesi i soldi delle nostre tasse. E vi posso assicurare che io continuerò a pagare tutte le tasse che mi chiedono, veramente, perché ho mangiato al buffet più buono della mia vita, È stato figo perché comunque cioè, ci hanno messo a disposizione un'infrastruttura che veramente Ma è avete avuto roba. anche accesso a robe particolari o il fatto di stare lì non vi ha dato, diciamo, partiamo la location? Allora, la location in realtà eravamo abbastanza ingabbiati, nel senso che potevamo andare in giro, potevamo andare a vedere quello che ci pareva. Chiaramente noi stavamo là a programmare, quindi non è che andavamo troppo in giro a vedere, però no, potevamo andare orientativamente dove volevamo. Poi certo c'erano delle parti dove l'accesso era interdetto, ma perché? Perché è interdetto? Perché noi eravamo, ci stanno dei corridoi sostanzialmente dentro la Camera dei Deputati che tu puoi percorrere solo se hai un tesserino particolare. Ah, ok, quindi livelli di sicurezza, Sì, diciamo. ma manco i dipendenti ci possono andare da quelle parti là, cioè è uguale. A me mi hanno detto, cioè praticamente c'è stava un corridoio particolare che a me serviva a fare per uscire. Sono stato accompagnato un giorno che c'avevo una riunione là, da una persona che aveva il badge che era valido anche per entrare al Senato e altre parti. Sì, insomma, ci stanno tipo ACL per tutti. È stata un'esperienza che io sinceramente auguro a chiunque perché mi ha permesso di entrare in contatto con delle meccaniche del mio paese, del mio stato, che difficilmente vengono messe a disposizione dai mezzi di informazione. Cioè, non ci stanno tante cose che non ti spiegano, tipo come avviene una seduta parlamentare, il fatto che tu hai l'impressione che magari un parlamentare non faccia un cazzo dalla mattina alla sera, quando invece quello che avviene è che stanno là pure de notte tanti, cioè io l'ho visti addormentati, ma no, cioè le foto quelle che fanno dei parlamentari addormentati, io per carità ci stanno dei parlamentari tipo Razzi che fanno veramente delle cose indecenti, ma il 90% di quelle foto io vi posso assicurare che non è scattato alle 10 di mattina. Ma è Ah, scattato a ok. degli orari improbabili, per cui a un certo punto. Guarda, ti dico che io quando ero ragazzo alle scuole medie, dal nostro professore di italiano all'epoca, se non ricordo male, ci portò a vedere una seduta della Camera dei Deputati. Cioè, come scolari ti permettono di andare lì su, sai, sono quei balconcini sopra, tutto Sì. intorno. E ci hanno tenuto lì, ovviamente, con l'impegno di non far casino, eccetera, però abbiamo potuto seguire anche noi un paio di volte delle sedute. È Devo dire una cosa fighissimo. che, diciamo, ti dà effettivamente una vicinanza a roba che tu in genere vedi in televisione e che, di cui pensi male per definizione, molto diversa, effettivamente. Esatto. Infatti è stata un'esperienza decisamente istruttiva, sia per me perché comunque lato organizzativo è stato un bagno di sangue. E poi comunque per chi ha partecipato è stata una bella cosa. E tra i risultati, perché abbiamo fatto tutta sto preambolo, in realtà perché i risultati che ci sono stati, praticamente allora il focus è stato sui dati della Camera, che sono messi a disposizione attraverso delle API che consentono di fare delle query sempre con SparkQL. Per cui il primo output è stato che all'interno della Camera dei Deputati non riuscivano ad avere una documentazione decente con esempi di query SparkQL, per cui praticamente quelli che si occupavano della Camera dei Deputati, praticamente dei dati, del virtuoso che definiva i dati, a un certo punto ci hanno messo a disposizione un esperto di SparkQL. Che praticamente noi gli andavamo là a chiedere le query, lui ce le dava e poi se le segnava e subito dopo l'evento sono state messe sul sito della Camera queste query SparkQL come esempi perché servivano proprio, era una cosa che diciamo, abbiamo incrociato le forze. Lui praticamente ha fatto un protocollo di trasmissione umano, cioè gli Sì, davi il dato sul foglio, lui andava, lo portava, tornava esatto. il secchio di No, dati indietro. è stato faceva ride in Figo, generale, però è guarda. stato figo. E, no, e poi in realtà sono stati fatti degli applicativi, tra cui uno era veramente figo e mostrava l'attività di Wikipedia sulle voci dei politici in corrispondenza delle elezioni. Attività di edit su Wikipedia, quindi insomma Ah, era una cosa interessante, quindi figa. c'era una correlazione, mo da scienziato Sì. chiedo, Poi risultato. Cioè, guarda, no, perché tu... Okay. Sinceramente tu non puoi immaginare la correlazione che c'è, cioè praticamente su Wikipedia si combattono delle edit war ogni elezione, lo so, amministrativa, sì, cioè, dietro in background c'è, sono gli eroi, mamma mia, sono... mamma mia. E poi in generale ci stanno altre applicazioni che consentivano di accedere a dati e metadati sui parlamentari, sulla carriera dei parlamentari, sulle presenze dei parlamentari e su tante altre cose. Sono uscite fuori veramente belle cose. Su quello sono stato veramente soddisfatto. Ma guarda... domanda dell'uomo comune: mm-hmm. Questi dati che sono usciti fuori sono disponibili da qualche parte? Si possono consultare, vedere? Sì, aspetta che ti do pure l'indirizzo. Che andiamo nelle note, dai. No, ma io devo dire che sono, cioè, è una cosa veramente lodevole che lo Stato si, diciamo, ovviamente questa cosa è organizzata, immagino, da un singolo, da un piccolo gruppo, però già il dare accesso a persone fondamentalmente comuni che non c'entrano niente col governo è una roba veramente... Alla Camera dei Deputati, e Beh, comunque, no, cioè, è stato, guarda, quello là è stato il momento in cui sinceramente io ho sentito di più di aver dato un apporto alla società, di fatto. Poi, a parte tutto, il sito è dati.camera.it e praticamente ci stanno tutti i dati della Camera dei Deputati, si possono scaricare i dataset, e poi ci stanno anche gli endpoint che permettono, tramite Query Sparkle, di fare delle query fighissime, tipo, cioè, appunto, correlare i dati di oggi con i dati della Prima Repubblica, cioè ci stanno veramente tutti i dati Ah, là, quindi posso utilizzare, cioè non solo scaricarmi, ma anche fare sì, query direttamente. Figo, questa è una esatto. roba che secondo me, questo è quello che è il futuro. Cioè, come dicevamo prima, non dare, cioè anche se tu poi dai il dataset a una persona o dai la possibilità di tirarlo giù, se io mi tiro giù gigabyte di roba, mettere su da me in piedi una roba per interrogarli non è sempre No, certo, facilissimo. non è mai facile, di fatto, pure perché loro non solo ti offrono l'interrogazione, ma ti offrono tutte le ontologie già mappate, e quindi è una Che è proprio una fighetta. soddisfazione, no? Esatto. E poi l'altro è dati.senato.it, per cui stessa cosa però del Senato. No, ma stavo guardando sul sito, praticamente se tu accedi alla parte dei dataset, ci sono già delle query da cui partire, già scritte. Sono quelle Esatto, che hanno fatto loro, mi sa. e Avete so fatto le, voi, le no? fa, i famosi esempi dei Query Sparkle che abbiamo generato col buon Diego Valerio Camarda quella notte. Vedi che lavora tutta la notte e porta risultati. Mamma mia, Beh, guarda. è interessante davvero, eh? Grazie, grazie a nome Come dicono a loro. Roma, No, mica. no, è proprio bello. Ne ho lanciata una qualunque, tra l'altro è molto rapida. Guarda, sì, cioè, decisamente sì, è veramente. Io su quella roba là, il periodo che ci ho lavorato in maniera tangente, ho visto veramente un altro mondo. Per cui poi pure anche quando ho cominciato a lavorare in azienda e ho cominciato ad averci esperienze un po' più enterprise, comunque la collaborazione con quel tipo di mondo là, ho rilevato che mi avesse già arricchito parecchio. Infatti io quello che volevo anche ricordare ai nostri ascoltatori, mo noi stiamo parlando di queste robe in generale, poi se qualcuno di voi ha dei pruriti di poter cominciare a entrare in questo mondo, poi vediamo anche qualche link di realtà italiane, però cercate, comunque vedete anche nella vostra provincia comune, sarà sicuramente qualche attività che permette di entrare in contatto con questo mondo e imparare robe nuove. C'è tutto un set di tecnologie che puoi imparare cercando risposte a domande anche, volendo anche stupide, che secondo me già per quello... È un valore aggiunto fantastico. Cioè, anche i ragazzi che sono interessati si mettono e imparano tantissime robe nuove e tecnologie che poi puoi utilizzare nel lavoro. Cioè, ti rendono una persona migliore, diciamo, più, ne sai di più alla fine. Ottimo. Allora, visto che siamo allungati tanto, io avevo una domandina, secondo me stupida, però come dire. Link a due realtà, cioè quello che noi facciamo in genere in questo podcast e tutto questo Dai. mondo. astratto di Mario, dati, tu hai qualche problema di banda, eccetera. Io ce l'ho sul microfono, ma tu ce l'hai di cosa. Banda. Allora, banda, fondamentalmente, ci ricordiamo, noi abbiamo parlato moltissimo nella nostra... dovrebbe essere anche un po' più precisa, e invece pare proprio di no oggi. E invece la moglie che guarda Netflix, è quello il problema. Potrebbe essere tra il computer suo e il computer della ragazza mia, qua finisce male, Ok, okay. Mo ci risiamo. Ho sentito cose tipo stranissime. Vabbè. Ma dove eravate arrivati? Mi avete sentito? Dio. No, Mario, sei davvero come se fossi connesso da Saturno. Io zero proprio. Oggi? Mario? Ok, adesso io... sì. No, ci siamo persi, Mario. È una puntata molto sfigata. Ci siete? Ci siete? Noi siamo sempre qui, sei tu che te ne vai. Ma io sento voi invece che sparite e poi venite compressi a velocità luce e poi... Ecco, okay. Ma perché tu hai qualche difficoltà sulla banda, perché noi tra di noi ci sentiamo bene. Vabbè, io ho un modem fatto di scotch e sputo, fondamentalmente, potrebbe essere quello, ma... Forse, vediamo. Fritzbox. Cambierò. Comunque stavo dicendo, c'avevo questa domandina legata al fatto... diciamo, che lega un po' quello che facciamo noi, quindi ve la faccio breve, sennò qua non riusciamo più a riuscire fuori. Allora, legare IoT a Open Data, no? Che sembra una domanda, una cosa assurda. A me è venuta in mente sta roba. Allora, pensa a tutti quelli che a casa come noi si mettono a generare dati sulla temperatura di casa e sul riscaldamento, anche quelle robe che vanno molto di moda come NetAmo, eccetera. E tu sai, nella mia abitazione, quanto io riscaldo, che temperatura ho e la temperatura esterna è un dato che tu hai. Se lo Stato per qualche motivo decidesse di voler, per l'idea è quello di voler diciamo, tirare giù questi dati e farne una database nazionale per farci qualcosa, potrebbe avere la motivazione a spingere gli utenti a dargli questi dati. Un'idea sarebbe, se io voglio da fare incentivi per la ristrutturazione delle case, invece di farli come fanno in genere la politica discutendo, cioè chi discute, chi argomenta meglio vince, invece farlo con livello di dati, cioè se io vedo in quella provincia generalmente la gente riscalda di più, quindi utilizza più energia per riscaldare, le temperature delle case sono più basse, vuol dire che l'isolamento è una merda fondamentalmente. Quindi posso focalizzare tutti i miei incentivi economici in quella regione, in quella città o in quel quartiere particolare, perché le case sono fondamentalmente mal fatte, invece di farle a pioggia ovunque, quindi cercare di migliorare le situazioni che sono davvero migliorabili. Questo migliorerebbe la qualità della vita in generale. Ma è un esempio idiota, però se ne potrebbero fare altri, molti altri, quindi potrebbe essere una cosa che per lo Stato appetibile e per l'utente medio avanzato molto fattibile. Quindi io ti do i miei dati, ovviamente anonimizzati eccetera, che ti permettono di avere un'idea di come va lo Stato su alcune parti, cioè lo Stato però nel privato, cioè a casa mia, per dire. Quindi devo mettere una nota, meno 2 gradi se viene fuori l'incentivo. Ah, giusto, hai ragione, ci ho pensato all'idea italiana tipica, mo ti frego per avere, mannaggia, è vero, non c'è ontologia in questa roba. No, però comunque avete capito la mia idea qual era, cioè nel senso ci sono cose che sono, cioè l'IoT è sempre pensato come una cosa mia privata, cioè io ho i miei dati, me li genero e me li guardo, però questa roba se poi aggregata insieme a livello nazionale potrebbe dare davvero insight su, non lo so, la struttura patrimoniale in generale o anche sulle auto, qualsiasi cosa, cioè quindi ci potrebbe essere molti dati che potrebbero essere utilizzati per migliorare a livello nazionale, secondo me. Tu stai spostando il focus in realtà verso una cosa che a me piace molto, che è in generale diciamo, allora, mo io parlo dico una cosa e sarà super altisonante, ma in realtà è una cosa banale, e si chiama data driven innovation, cioè il processo dell'innovazione proprio guidata dai dati e non da chiacchiere, no? E in realtà, allora, c'è sta, non è esattamente quello di cui parli tu, ma c'è un'azienda di Roma che fa comunicazione e che praticamente ha usato un algoritmo circa di conversione per ecco qua questa qua praticamente TIM ha fatto TIM quelli del telefono di Telecom Italia Mobile, la cara Siptel, e appunto ha fatto una sorta di contest per vedere come riuscivano varie aziende, varie comunità, vari utenti a migliorare la user experience dei loro servizi. E queste persone di Noise col 3 finale sono un'aziendina di comunicazione che fa delle cose veramente fighe. E per cui a un certo punto loro che hanno fatto? Hanno preso i social di Tim, li hanno compressi, hanno fatto una sorta di MapReduce su sta roba, quindi hanno insomma interpretato a macroare i tweet, i vari status su Facebook del tipo ah, Tim, Madonna, che schifezza, eccetera, eccetera, oppure Sentiment figata sta analysis. cosa. Sì, analisi del sentiment e altre cose, e hanno distillato una cosa che loro chiamano Data Driven UX, per cui praticamente hanno usato questi dati per rifare la user experience a Tim. Vi ho linkato la cosa, magari poi la mettete in coda all'episodio come piccolo link, vediamo. Questo è fatto sulla user experience, quindi diciamo è una cosa anche un po' di design, un po' fighetta, eccetera. Però diciamo io nel futuro e anche nel presente in realtà vedo sempre più diciamo problemi risolti con questo approccio, ossia guardo da un punto di vista molto alto le persone che problemi hanno attraverso varie cose come Twitter, ma come anche i dati, per esempio che ne so, interpreto disagi, interpreto, per esempio faccio se un applicativo in produzione dà problemi, io faccio analisi dei log in real time per vedere qual è il problema e lo aggiusto, è la stessa cosa, è lo stesso approccio. Seguendo quei dati che produce l'applicativo, E chiaramente i dati che produce l'applicativo sono molto meglio di quelli che producono le persone, perché le in persone genere producono un sì. sacco di zozzeria. Ma Però no, un momento, chiariamo, non zozzeria nel senso di bestemmie o parole, cose così. Penso che il dato che produce le persone va interpretato. E quel problema è che non è mai chiaro, poi sono tutte le finezze della lingua in cui non si capisce esatto, bene cosa si intende. Infatti, il interpretare il sarcasmo. parlato è un bordello unico. Anche lo scritto. Esattamente. E quindi questo è sicuramente una cosa, cioè, alla fine, diciamo, mi sono un po' perso mentre parlavo, perché in realtà sono partito da un assunto di base e poi non te l'ho reso noto, a te ho sbagliato. Ok, E in vabbè, realtà una cosa che viene fatta in questo modo da svariati anni è il data journalism, cioè i giornalisti invece delle fonti umane, quindi il tizio che dice no, io mi sono andato a comprare la droga al parco e c'era il tizio che faceva il palo, eccetera, eccetera, loro vedono, utilizzano i dati in vari modi, per cui cioè vedono effettivamente attraverso delle basi di dati attendibili, messe a disposizione da organi attendibili, tutto quello che possono ricavare, per cui fanno mappature, fanno inchieste, tutto quanto, e poi vengono fuori degli articoli veramente scritti bene. infatti questa roba del giornalismo l'avevo messa in scaletta perché è una cosa che neanche mi ronzava in testa. Io avevo il sito di un tizio che si è messo a fare, non è un giornalista, però si è messo a fare analisi dati, lui è di New York, e fa tutti i blog post fantastici su proprio questa roba qui. Cioè, tipo c'è questa, si è scaricato, un articolo bellissimo, ha scaricato la mappa delle multe per divieto di sosta in tutta la città e ha trovato alcuni posti in cui i divieti erano stati messi ad hoc per poter fare più soldi ed ha fatto i Capito. conti di quanti Quanti milioni milioni di di dollari ha dollari ha guadagnato guadagnato il comune con sta roba e co grazie a quello poi è riuscito a far rilevare alcuni divieti perché erano imposti oggettivamente, come dire, messi ad hoc per farti fare la multa. Oh, bellissimo. Comunque sì, questo è quello che dicevi tu, cioè fondamentalmente tu hai una domanda e la tua domanda, normalmente il giornalista cioè, diciamo, dà una risposta facendo un'indagine giornalistica. Invece con Data Journalism tu vuoi sapere, è vero che le persone mancine mangiano più gelati? Allora, tu prendi tu giù i dati da qualche fonte, li interpreti e poi, come dire, spieghi quello che hai trovato nei dati e se la tua domanda è sbagliata, è giusta, oppure riesci a trovare altri insight nei dati. Spesso si trovano cose che non si pensa. Che non immagineresti mai. Esatto. Infatti io quello per cui, il motivo per cui io porto molto avanti questa roba del machine learning, che fondamentalmente è un modo di tirar fuori dai dati relazioni che l'utente iniziale non conosce, cioè che tu non troveresti, difficilmente troveresti. Quindi tu ti metti a elaborare i dati e vedi, guarda, c'è una correlazione tra questo e questo. Queste due cose cosa sono? Che ne so, persone mancine e, come me per dire, non per sfotti mancini, ma lo sono anch'io, quindi ci sono nella categoria, e non lo so... sport di qualche tipo, essere nerd, qualsiasi cosa, e da lì puoi iniziare un'analisi più approfondita su quella roba, però non avendo robe random, intervisto 10 persone, cioè allora sì, le persone mancine sono più così. Quindi il data journalism è una roba un po', come dire, cugina dell'open data, cioè si basa su quello e nasce dal fatto che esistono al giorno d'oggi una quantità di asset pubblici, una grossa quantità. Io non vorrei dire una roba sbagliata, ma io non mi ricordo che testata grossa che si basa molto su questo, non so se è il Wall Street Journal o il New York Times, e uno di questi due fa degli articoli di data journalist fantastici, poi andrò a cercare bene la roba, però mi ricordo una di queste testate che si basa moltissimo, cioè ci sono alcuni, diciamo, alcuni giornalisti in particolare che riescono a produrre visualizzazioni fantastiche. Questo tra l'altro ci ricollega a una puntata che noi abbiamo avuto in passato con Enrico, che è uno degli host del podcast Data Stories, dove lui parla, loro due, Enrico e Moritz, parlano solo di data visualization, cioè solo di quello, okay. Loro, diciamo, lo fanno per lavoro e spesso tramite loro si arrivano anche al link allegati al data journalism, ma hanno avuto una portata in particolare in cui si parlava solo di quello, però in generale parlando di visualizzazione, cioè si gira sempre intorno a questo, quindi devi avere dei dati e devi visualizzarli, e i dati open sono una delle cose, anche i dati legati a Twitter, come dicevi tu, sul social network, che sono spesso aperti, sono un esempio classico. Comunque io del data journalism avevo trovato un sito italiano, un'associazione di data journalism italiano, che poi metteremo giù nelle note, in cui loro fanno articoli basati su dati, quindi cioè non sono cose, come dire, diciamo, spesso in quel caso l'interpretazione è personale, però il dato su cui tu ti basi, che è una cosa che io mo avevo una piccola virgoletta, critico sempre nel giornalismo italiano, cioè se vi capita mai di leggere un articolo italiano di qualche testata qualsiasi e in cui loro citano una cavolo di fonte, non c'è mai, e se c'è non c'è un link. Cioè, parlano di una roba che è successa, è successo a Oakland, così, e non c'è il link diretto, ci sarà una notizia, mettila una fonte, maledizione. Ma è quello che purtroppo fa sì che non si riescano a distinguere le foto sbagliate da quelle giuste, le notizie false dalle notizie vere. Si prendono dati a caso da qualunque parte, succede un evento, è saltato l'aeroporto a Istanbul e hanno messo le foto dell'aeroporto di Bruxelles, cioè neanche loro sanno quali sono le fonti spesso. Non è una cosa scusami. No, chiudo, il problema è che purtroppo quello che io vedo è che fanno l'articolo per avere il click, per avere l'introito della pubblicità. Esatto, nessuno fa più articoli perché deve dare la notizia per davvero. È la stessa cosa che vedo ora, andiamo un po' in off topic, devono mandare per forza il video che hanno registrato quelli con il cellulare mentre il tipo stava ammazzando l'altro. Ah, quello famoso. Sì, infatti è un giornalismo che non è più basato su dati o su eventi, ma è basato su più click faccio più pubblicità mi arriva. Questa cosa è terribile. Ma questi, secondo me, non sono giornalisti quelli che fanno, cioè anche se lo sono non può essere definito più giornalista, secondo me ti leverei proprio la qualifica. E in seconda battuta, secondo me ci sono cose fondamentali, cioè sono inutili in sé, cioè robe non portano niente a nessuno, quindi cioè, come dici tu, è solo per pubblicità, che poi è la... È solo per fare soldi, e in effetti il giornalismo adesso funziona così. Il giornalismo reale in teoria sarebbe, l'obiettivo è quello di fare informazione. È anche vero che è tutto drogato parecchio dal fatto che c'è sempre meno gente che compra la carta, perché guardano tutti sul web, usano gli AD blocker, e quindi come finisce che chi ti dà la notizia lavora gratis, perché non ha nessun tipo di ritorno dietro. È un sistema un po' che si morde la coda, secondo me, e che purtroppo porta ad avere un giornalismo di bassissima qualità. Questo è anche, vabbè, quello andiamo poi nel discorso del fatto che, secondo me, dall'inizio quando si è cominciato a dare, cioè, i giornali italiani hanno cominciato a dare tutti i loro contenuti free, per poi lamentarsi del fatto che non fanno più soldi. Per me si dovrebbe concentrare su poche cose di qualità e far pagare quello. La gente non paga. Ma se non è più nulla, cioè, poi ti attacchi. Voglio vedere quanta gente fa. Cioè, il giornale. No, il fatto è che la gente si fida di quello che legge su Facebook piuttosto. Ok, chiudere Facebook è il primo passo, sono d'accordo. Oppure fare un filtro pesante sulla veridicità delle notizie. Ma non puoi, nel senso, quante sono le balle che arrivano su Facebook e a cui la gente crede? Tutte. E purtroppo è difficile andare a convincere le persone che le notizie vere non si trovano lì. Lo so, Francesco, guarda, io ti dico, la mia soluzione è stata quella che non sto usando più Facebook, ne ho guadagnato in salute. E però non è neanche quella la realtà, secondo me, la soluzione definitiva, no, perché d'accordo. Comunque Facebook, per esempio, io lo uso con un sacco di amici al posto dei cellulari. Noi ci mettiamo d'accordo per fare le cose su Facebook e funziona molto per tenere i contatti, e che era nato così e poi si è espanso sulla questione delle news, dei link. E vi chiedo scusa per l'off topic che è madornale su questa puntata, però purtroppo si sta prendendo questa deriva che le notizie non arrivano più dai dati reali, ma derivano dal sentito dire, derivano dal devo fare scalpore se non nessuno mi legge, e soprattutto devo fare scalpore su una cosa gratis riempita di pubblicità. Sì, sì, sì. E quindi diventa la classica bufala. E sacco di testate fasulle fanno questo. Guarda, in realtà non è tanto off topic, perché se si instaurasse la cultura dichiarare sempre quella fonte dei tuoi dati, i tuoi dati, quella roba che dicevano prima, anche i dati della PA, vengono da una fonte di cui viene certificata la qualità da qualche ente. E qua torniamo a quello che dicevi tu prima, cioè, se tu vorresti certificare la fonte di tutte le notizie che vengono su Facebook, avresti bisogno di una roba 10 volte più grande di Facebook che fa solo quello. Cioè, la certificazione dei dati è un casino, cioè un lavoro solo quello. Comunque, se si instaurasse la cultura della, cioè, quando tu dici una cosa, come puoi leggere la tua ipotesi in qualche modo, che c'è pochissimo da noi, tutte queste testate assurde sparirebbero, cioè la maggior parte, perché tu non puoi fidarti di uno che fa fotone, mette tutti quei siti a chiappa click. Cioè, lo vediamo tutti noi, vediamo un chilometro, che sono fondamentali, solo cazzate. Però c'è gente che sta lì. Ma tutti noi, tutti noi siamo veramente pochi. Lo perché so. Se tu ti guardi intorno, tutti gli altri, che sono quelli che prendono per oro colato qualunque cosa sia scritta su internet, sono tantissimi. Lo so. E tanti prendono talmente per vere queste cose qua che persino muoiono. Sì, l'ho sentito, queste storie assurde. E diventa veramente, veramente difficile avere un controllo su internet, che è sostanzialmente libera per tutti, un controllo delle cose vere piuttosto che quelle di false. E c'è tanta gente che crede a quelle false, ma il fatto che ci possano essere delle fonti da poter consultare non gli interessa niente. So. Tantissima gente quando ti dice ma tu lo sai che noi... che lo Stato butta 800 milioni di miliardi di euro in stipendi di persone che non fanno niente, e tu gli chiedi ma il dato dov'è? È scritto su internet. Guarda, io ma quello è proprio il punto, secondo me in generale non è impossibile, cioè non è impossibile, è molto complicato fare il controllo. Secondo me la soluzione a questo problema è quello di educare una sensibilità, è l'unica, che tu non puoi controllare tutti. Ma perché non conoscete, non è proprio possibile. Non conoscete nessuno laureato in YouTubeologia? Io te ne conosco tantissimi. Tutti. Minimo due lauree. Certo, YouTubeologia e Facebookologia sono all'ordine del giorno. Applicate. Esatto. Twitterologia un po' di meno, devo dire, però c'è anche lì la tendenza. Ma sai, lì è un po' meno perché è più difficile da utilizzare, sai, queste cose di 160 caratteri, le bufale in 160 caratteri, non mi vengono. Le bufale sono grosse, non c'è. Sono grosse. Ok. No, il fatto è che, tornando in topic, il poter avere accesso, però semplice, a un sacco di dati migliorerebbe davvero tutta la parte di informazioni su internet, perché, tornando al fatto che noi spendiamo 800 milioni di miliardi di euro in stipendi di persone che non fanno niente, quando tu hai l'accesso a questi dati e in effetti ti rendi conto che 800 milioni di miliardi di euro non esistono come stipendio dei dipendenti pubblici, e dici allora c'è qualcosa che non torna. Ma la gente crede, cioè a Torino è venuta la Appendino dei 5 Stelle ed è girata la notizia che ha licenziato 11.000 dirigenti. Ci sono? La gente lo ha retweetato, lo ha postato su Facebook perché lei è stata brava di qua di là, e uno ha alzato la mano e ha detto: guardate che i dirigenti del comune di Torino sono 110. Cioè la cifra è talmente fuori di testa che a nessuno è venuto in mente: ma quanti possono essere realmente? Diventa veramente veramente difficile. Guarda che quello è il problema, se le persone avessero un minimo di... Il problema è anche il fatto che la società in toto si comporta come il più stupido di tutti quelli che stanno nel mischione, e quindi se tu nel mischione c'hai tutti i super geni ma è un cretino, il grosso alla fine diventerà un grosso cretino che si dibatte, secondo me. Comunque, relativamente al fatto della pubblicità e del modello che dovremmo trovare sulla pubblicità perché le persone non sono pronte a pagare, sì, le persone non sono pronte a pagare, è vero. Non lo dico io, ma l'ho detto Brenda Nike, che è praticamente tipo il creatore del JavaScript. Il quale adesso sta facendo santo. Il quale adesso sta facendo una cosa insieme a dei bravi ragazzi, che è un software, che è un web browser che si chiama Brave, e praticamente sto Brave, che cacchio fa? È un browser con l'adblocker integrato e espone una serie di API e varie altre cose per la pubblicità, per cui praticamente in realtà sta cosa è un po' provocatoria. Il browser funziona abbastanza bene, tra l'altro c'ho un amico che ha contribuito, credo, con la funzionalità di miglior aggiunta dei bookmark da interfaccia grafica da desktop, e me l'hanno portato all'attenzione proprio come una cosa provocatoria per far sì che venga definito un modello migliore per la pubblicità sul web, perché quella che c'è adesso non funziona. Ma non è che non funziona perché tu poi vai sul sito, e a parte che non funziona perché non è possibile che tu fai 1000 click e ti danno 1 miliardo di euro e allora è finita là. Questo non fa bene all'ecosistema delle notizie, come dicevamo poc'anzi. Ma soprattutto tutti questi script, queste cose per controllare la pubblicità, eccetera, eccetera, per visualizzare una pagina con scritto c'è stato l'attentato all'aeroporto di Istanbul, ci metti 6 ore, sì, perché 100 mega, cioè fa schifo sta cosa. E al lato c'è un articolo che adesso cerco, perché io purtroppo io ormai ricordo le cose che cerco e non c'ho più i preferiti sul browser. Questa è una cosa organizzata, questo... purtroppo vabbè, a un certo punto. Sì, sentite, allora, tu intanto che cerchi, io volevo dire due cosette per chiudere, perché siamo già allungati un tanto. Tu vai cercalo, poi ho messo qua, si chiama ti ho passato il link, si chiama The Website Obesity Crisis, praticamente non il, articolo il, unico. il nome è azzeccatissimo. Ma lo so. Il web ciccio. Praticamente no, è una comparazione tra come è partito il web e come è diventato obeso negli anni, per cui ci stanno pubblicità ovunque, mega immagini ovunque, non... tutto sregolato. No, ma la rogna vera è che uno mette gli AD block, e io sono uno che li usa, so che non è etico, però io non posso pensare che tutte le volte che apro un sito di un giornale e mi si apre il video con l'audio e mi si apre il pop-up a tutto schermo, che lo chiudo e me ne apre un altro, cioè diventa veramente, io metto la D-block per riuscire a navigare in maniera sana, esatto, senza che divento matto tutte le volte. Se le pubblicità fossero come quelle di Google, le pubblicità di Google stanno lì nell'angolino e spesso mi interessano perché seguono i miei cookie, la navigazione mia. Magari trovo delle cose interessanti per me. È sempre un fatto di dati, poi, alla sì, fine. Sul discorso della privacy. Ma, allora, il discorso della privacy, ok. Ma io dico, se porto uno slogan che tramite Valentina ho sentito un po' di tempo fa, per cortesia fammi il profilo, profilami, perché così mi dai la pubblicità delle cose che a me servono. Il supermercato manda lo stesso volantino a me e a mia nonna, e non serve né a me né a lei. Io su internet, se cerco su Amazon un microfono e scopro che navigando da un'altra parte c'è la pubblicità di un microfono più bello in offerta, ma io ci sto. Sì. No, per esempio, non me ne frega niente se tu mi apri un pop-up della Madonna con una cravatta, che io non metto mai le cravatte. Cioè, io sono disponibile a lasciare i miei dati per farmi le pubblicità giuste, ma fammele in un formato che io possa fruire del contenuto della pagina senza dover bestemmiare tutte le volte. Ma io volevo dire un'ultima cosa, a parte se parlate degli ad blocker, ma è proprio di ad blocker, quello là famoso che ha cominciato tutta la storia di ad blocker. Io ho letto un po' la pagina del tipo all'inizio, e lui fa anche tutta una storia su quali sono le pubblicità eticamente corrette, lui le definisce, cioè quando tu metti ad blocker, quello lì col segnale stop... Sì, quello lì, esatto, il primo che è nato. E lui sì, definisce sì. Una serie di canoni secondo il quale, se la tua pubblicità li rispetta, tu il suo filtro lo passi. Cioè, non devi essere invasivo, non devi copiare il contenuto, non devi, eccetera, eccetera, quello che dicevi tu di Google. In quel caso lui ti fa passare. Se no, ti blocca. Quindi, diciamo, lui blocca solo quello invasivo. E tra l'altro, dalle opzioni, almeno su Android, tu puoi decidere anche di levare tutto, cosa che per me non funziona, vabbè. Però in generale lui cerca di definire un'etica della pubblicità per l'utente, in modo che l'utente possa dire: io ti blocco, però se tu non mi rompi le palle puoi stare lì. Quindi c'è un compromesso fondamentalmente. Ok, direi che abbiamo svisciato comunque tutto come al solito in maniera un po' caotica, però abbiamo parlato di molte cose. Se... ma è, ormai è una nostra caratteristica quella del divagare, direi. Quindi. Ma sì. Sì, no? È il cazzeggio, quello è quello che ci piace a noi fondamentalmente. Ci sta pure poi. Sentite, se non avete nessun'altra cosa da aggiungere, io passerei alla parte, diciamo, questo mese faremo una puntata unica. Lei, noi in genere stiamo cercando di fare due puntate. Ah, ok. Cioè una solo di come dire, l'argomento base, questo oggi sarebbe l'open data. E poi ne facciamo un'altra ex di cazzate, cioè okay, diciamo cose simpatiche che abbiamo trovato in giro che ci piacciono. Quindi okay, la hardware, software, programmi, quello che ti pare. È diventata così interessante che abbiamo pensato di facciamo una puntata a parte solo su quello, però a volte le integriamo quando l'argomento diventa abbastanza ciccio per non fare ore e ore di discussioni. No, certo. Ok, quindi se non avete, diciamo, parti da aggiungere alla parte open in generale, data, software, quello che volete, io passerei ai cazzilli, che è un misto tra cazzate e gingilli che noi, diciamo, di cui parliamo i nostri ascoltatori. No problem, per me. Perfetto, ragazzi, voi? No, no, possiamo procedere su questa seconda parte. Ricordatemi di ricordare il Linux Day, ma ne parliamo dopo. Ah, ok, Linux Day. Vabbè, lo metti in scritto, se ce lo ricordiamo. No? Sì, ma è tra luglio che, cioè tra agosto le ferie, settembre che sono in viaggio di nozze, finisce che non ne parlo più. La faccia nostra, tra l'altro. Vabbè. Allora, comunque passiamo all'angolo cazzilli di questo mese. Io ho un paio di cosine da proporvi, però giusto veloci. Allora, una, secondo, sono abbastanza sicuro di chi ne abbiamo parlato, è un progetto Kickstarter che si chiama molto fantasiosamente Chip, che è praticamente un SOC, diciamo, sulla simile, ricorda vagamente sui Raspberry, quindi diciamo è un piccolo computer di caratteristiche hardware che ho qui aperte. Allora, è un Allwinner Cortex A8 1 GHz, quindi non è una roba strapotente, con mezzo giga di RAM, c'ha una flash integrata su di 4 giga, però ha WiFi e Bluetooth integrati dentro, cosa che Francesco e Giuliano esulteranno per questo. Comunque è un progetto Kickstarter che si è concluso l'anno scorso, che io ho finanziato, e questa settimana sono arrivati ben due chip a $9 l'uno e una batteria di pentole. No, scherzo. comunque mi sono arrivati, l'ho aperti, sono, guarda, molto carini. Ho messo qualche foto pure sul mio, un po' in giro sul mio social network. L'ho messo tra un Raspberry normale e un Raspberry Zero e sta a metà. Sembra un Arduino di dimensioni micro piccoline. Fondamentalmente fa girare su un sistema derivato Debian, quindi perciò parlo di una cosa che ricorda, okay, Raspberry. Ha due file di header sui due lati di GPIO, WiFi integrato. Devo dire che non l'ho ancora attaccato perché io, furbo come sono, non ho preso nessuna roba per poter attaccare uno schermo, dato che hanno tutta una roba proprietaria, non avendo uscite video di suo, devi prendere un hat extra che costava più del chip. Io ho detto no, non cerco di farlo headless. Leggendo in giro ho visto che si può fare, ma bisogna fare comunicazione seriale tramite il cavo USB, ho avuto il tempo di farlo. Sì, perché tra l'altro per flashare le ROM su va fatto tramite un sito web loro, cioè non lo fai direttamente, è un po' un casino. Quindi ho detto, vabbè, belle tutte, belle impacchettate, carine, però poi li accendo con calma quando ho un pelo di tempo. Comunque, questo è un discorso che avevamo fatto un po' più a lungo quando uscì lo Zero, che io sto ancora aspettando, cioè non ancora hanno cominciato a distribuirli in maniera... No, guarda, sia su PIAT che su PI Moroni arrivano a ondate, okay, molto ma quanti più... ne puoi comprare? Sempre solo uno, ma le ondate sono molto più ravvicinate. Okay. Vabbè, quando ne posso comprare? 10 ne parliamo, perché per adesso... Ma guarda, per me loro hanno già perso il treno, perché io sto facendo tutto con l'ESP, e chi si è visto si è visto. Appena c'ho tempo guarda anch'io, perché sto aspettando dall'anno scorso quasi, guarda veramente. No, allora io aspetto lo Zero, così imparate. No dai, tu sei il re dell'ESP. Non ci crede nessuno, Giuliano. Ok, comunque la cosa che volevo dire è che mi sono arrivati, ne ho due, e sembrano molto carini. Il prezzo è abbastanza contenuto, sui $9, che Giuliano, dall'alto del suo acquistare dai nostri amici, mi può dire è un prezzo accettabile, e si trova accettabilissimo, esatto. E quindi è molto carino. Appena c'ho tempo ho dato un'occhiata a progettini che già hanno fatto, si possono fare varie cose, si possono attaccare sensori, quello che si vuole, come un Expo, come un Raspberry. Quindi sembra una macchinetta carina, c'ha una potenza decente se ci vuoi usarlo come terminale. La cosa carina che loro vendono è un sistemino embedded, è una, come dire, un cosino con su una tastiera, uno schermo LCD di 480x360 piccolissimo, tu ce lo attacchi dietro e diventa un sistema Linux completo, con batteria tra l'altro, che dura diverse ore, una piccola lipo. È una cosa stupida però carina, in cui ci puoi fare, diciamo, cose base. Ho letto un articolo che poi vi posterò, di un tizio che dice no, è la cosa che io aspettavo, cioè la macchina Linux Embed che io aspettavo da sempre. Vabbè, ovviamente è come dicevamo prima, per fare gli articoli per Becca e Crick che ci puoi scrivere, no? Una chiavica, leggete. Sì, sì, ma è il tizio che l'ha inventato, hai capito? Esatto. Comunque, questo era uno. L'altro è una roba che avevo letto in giro, però ho tenuto un po' in disparte come non interessante, però si è rivalutata nei miei occhi. È un'altra piattaforma in Cina della BBC, ha fatto questo oggettino che si chiama il Microbit, che è l'erede del micro che avevamo già fatto, che costa, se non sbaglio, 14 sterline. Apparentemente non fa assolutamente nulla, perché a livello hardware è veramente un po' un po' scarso, cioè una roba molto molto molto base. Però una cosa fighissima che hanno implementato tramite collaborazione col fondatore di MicroPython, che è un altro progetto Kickstarter che noi seguivamo, è completamente supportato MicroPython su questo piccolo robo embedded. Quindi è una cosa che noi aspettiamo anche da tempo sull'ESP, per dire, che ancora non c'è completo. Quindi chi è interessato a questa piccola macchinetta della BBC, tra l'altro una cosa di come dire, per il prezzo, una cosa davvero davvero figa che ha fatto la BBC per gli studenti fino al settimo grado, che dovrebbe essere tipo da noi fino alle scuole medie circa, lo danno gratis. Cioè tu sei studente, gli scrivi, voglio avere il micro bit, e te lo mandano. E questo è davvero, come dire, incentivare l'educazione informatica, non a parole come si fa spesso. È una vergogna. Comunque, è una vergogna che distribuiscano queste cose così impunemente. Non... Esatto. Bloccali, vai lì e fai una dimostrazione. Tanto mo se ne vanno, quindi non ci interessa più. Ah, giusto, certo. La Brexit. Che ci importa. Ok, quindi io con la mia parte direi che ho finito. Voi avete qualcosa, avete portato qualcosa al nostro mare delle cazzate magno? Che... Sì, sì. Allora, io dai soliti amici dietro l'angolo ho acquistato un affarino che ancora non è arrivato, ma che promette bene. E si tratta di un controller Wi-Fi per le LED, per le strip di LED, cioè quelle, i LED in striscioline che possono essere sia bianchi che RGB. E praticamente si controllano invece che con il solito telecomando che danno in dotazione, con appunto con un'app che sta sul cellulare per Android, credo, perché a noi ci piace tanto l'Android. Invece ho già scritto ai nostri amici CCI per chiedere se ci fosse un API o un qualcosa del genere per poterlo controllare da un PC collegato sullo stesso router, e sono in attesa di comunicazioni su questa cosa qua. Però, ma i signori dietro l'angolo, che sono quelli in Cina, ti rispondono con la stessa velocità delle consegne o sono più rapidi? No, di solito sono più rapidi, anzi una prima risposta me l'hanno già data dicendomi che probabilmente si può fare, però non sono scesi nei particolari. Diciamo che il costo è decisamente accessibile, perché costa 7 euro, e quindi attendo fiducioso, e i miei pesci gioiranno quando ovviamente metterò le lucine colorate direttamente dal cellulare, tipo strobo, sì. strobo. Maledetto strobo. Poi ti faranno anche un cartello con senti, ma la musica dov'è? Esatto. Musica sottomarina la fai, la fighissima. Ma li farò sentire come, insomma, ad Ibiza, ecco, li mando ad Ibiza, via. Invece okay. L'altra cosetta che non ho ancora fra le mani, ma ce l'avrò prima o poi, è il, secondo me, successore dell'ESP 8266, che si chiama ESP 8285. In pratica ha le stesse funzionalità, e quindi più o meno quello che fa l'ESP 8266 lo fa anche lui, tranne che ha una memoria da 4 megabit integrata. Questo ne riduce, credo, sia la dimensione, e si vede perché dalle foto poi si vede che la dimensione è ridotta, ma anche il consumo, che sarà di quei 4-5 microampere, che però a noi che andiamo a batteria ci fanno un sacco comodo. Ma quindi non è quello a 16 o a 32 bit, no, è un'altra cosa. No, quello è l'ESP32, è ancora ad avvenire. Quello okay, ne riparleremo a settembre, e nel frattempo ci sono tra l'altro sempre aggiornamenti sui pin, sulle funzionalità, insomma, stanno, diciamo che l'ESP31 che hanno mandato in beta è lì che la gente lo prova e ci fa anche la pasta asciutta, ma l'ESP32 vero e proprio ancora è, diciamo, in fase embrionale, non è ancora in produzione. A settembre invece dovrebbe entrare in produzione, chissà, vedremo. Ok. Allora, io aggiungo il mio piccolo contributo. Sto lavorando su un progetto di cui ne ho già parlato tipo in 14 puntate con le WeMos, e mi sono accorto, dopo aver bestemmiato in turco su come attaccare le batterie, che i signori di WeMos hanno fatto uscire un piccolo shield per attaccarci una lipo sopra con il caricabatterie, che si carica con la micro USB. Quindi praticamente attaccate la batteria, lei alimenta il cipettino, e quando si scarica attaccate la micro USB e lui gestisce tutta la ricarica. È interessante. Direi che quando poi torno dalla vacanza di settembre faccio l'ordine. Questo potrebbe anche voler dire che ci si può attaccare forse un pannellino solare per ricaricare la batteria, forse. Ma la porta è una micro USB, quindi nessuno vieta di dare un 5 volt che arriva da una parte diversa che da una porta USB di un PC. Infatti pensavo a quello. Infatti a questo punto lo puoi tenere sempre attaccato, così carica se c'è una fonte di... Ma sì, se hai il pannellino solare, lui di giorno carica, di notte scarica. Funziona con la batteria, non è male. Ottimo, è una cosa che potremmo pensarci. E ci abbiamo un'altra roba in scaletta, ne vuoi parlare tu, che l'avevi accennato prima? Sì, allora, è un po' in anticipo, ma cominciate a fare il save the date sul calendario. Non so se riuscirò poi a parlarne a agosto o a settembre, che non ci sono. Faccio parte dell'organizzazione del Linux Day qui a Torino, quindi il 22 di ottobre, se non vado errato, che è un sabato. Ci saranno eventi in tutta la nazione basate su Linux, sul software libero. Se ne sapete, andate, perché c'è roba interessante per quelli già saputi. E invece, per chi non ne sa nulla e vuole avvicinarsi, ci sono interventi e presentazioni molto interessanti anche per chi vuole cominciare. Normalmente c'è il LIP, quindi l'installation party, e dove, se portate il vostro PC, vi installano Linux e fatevi sempre un backup dei dati prima, che è meglio. Vi confermo, è il 22 di ottobre. Ottimo, quindi abbiamo una volta in largo anticipo invece che dopo, abbiamo detto una no, e visto che di solito poi finisce che ne parliamo dopo. Sì, io comunque sarò lì a Torino, se è tutto confermato, sarà al Dipartimento di Informatica. Quindi accorrete, casomai anche per incontrare Francesco e fare due chiacchiere con qualcuno della trasmissione, sarebbe pure una bella occasione. Nessun problema, cioè alzate la mano, io sarò tra i panel e farò il mio intervento di una mezz'oretta. Ok, perfetto, quindi direi che abbiamo concluso ampiamente in tutti gli angoli più remoti di cose che c'entravano e non questa trasmissione, come al solito. Quindi se non avete altre cosine da aggiungere, io andrei in chiusura. Ragazzi, quindi tutto finito per voi? Cioè, avete qualche altra cosa? Abbiamo parlato tantissimo. Che sì, infatti, penso che la famiglia, non so se si è sentito, comincia a scalpitare. Batteranno sì, la porta, si è sentito. Batteranno la porta e mi picchi, vedranno via. Quindi, papà, vieni. Va bene, allora a questo punto faccio i convenevoli di casa di chiusura. Come al solito, vi ricordo, potete contattarci sempre tramite i canali tipici, non siamo ormai più a ripetervi, tramite Twitter, tramite la mail, ci trovate sempre sul nostro sito, che è quello di geekcookies.github.io, dove trovate tutto, tramite Facebook, sul nostro canale e community su Google+, il nostro podcast lo trovate ovunque, su iTunes, Stitcher, Player FM, Spreaker e sulla nuova sezione podcast di Google Play. Come ultima cosa vi ricordo sempre che la nostra pagina su GitHub ha una parte di issues aperta che utilizziamo come forum della trasmissione. Se volete discutere di qualcosa, fare in modo che le cose che voi ci chiedete o che noi chiediamo a voi siano poi per tutti, per trovare, io sto utilizzando a volte robe che abbiamo già discusso, per la roba di montare hard disk X4 sotto Mac o cose del genere che non ricordo mai, stanno lì, vado e le vedo, le utilizzo, perché qualche utente mi ha aiutato, che ringrazio, ha aiutato a risolvere la questione. Come ultima cosa, vi ricordiamo che se passate attraverso i nostri siti di Amazon, noi diamo affiliate, quindi ci arrivano pochi cents per tirar su un po' di hardware e software che noi utilizziamo per migliorare il nostro audio. Direi sempre meno cents, perché sì, nostro... Amazon ha tagliato su questa cosa. E poi noi compriamo quasi tutto dalla Cina ormai, quindi i cents non ci sono più per nessuno. Vabbè, gli ents. Esatto, i cents, gli ents. No, quelli se li tagliano tutti loro, lascio proprio perdere. E come ultimissima cosa vi ricordo sempre che la nostra sigla presa da Jamen 2 dei Fornofonix, i cui credit trovate sul nostro sito. Quindi un'ultima cosina, ricordatevi sempre di sentire il podcast fichissimo di Francesco, che è Pillole di Beat, che voglio... Oh bravo, grazie, me ne ero dimenticato. Hanno fatto una fichissima puntata sulla compressione, una audio e una sola compressione video e di immagini, una sola puntata... Soltanto di immagini, okay. Quella lì video la stiamo programmando, sarà una specie di mega puntata divisa, penso, in 3-4, perché okay. Alex mi ha detto che è una roba un po' complessa. Già solo quella, solo una sul JPEG è stata lunghissima, funziona la compressione. Sì, JPEG era 50 minuti al posto dei miei soliti 10. Molto interessante, anche quella prima sulla compressione zip, come funziona nel dettaglio, è stata molto figa, devo dire. Sentitela e commentate e interagite anche lì. Quindi io in chiusura ringrazio tutti voi, in particolare Alessio, per essere stato succube delle nostre lucubrazioni a lungo. Grazie a te, grazie mille di essere stato con noi. Ringrazio Francesco e ringrazio Giuliano dei vostri assolati posti. Siete liberi a questo punto di andare a mare o fare quello che volete. Certo. Giuliano va al mare, io al massimo posso andare a farmi una doccia. No, esatto, io al mare, sicuro, guarda, al mare. Ma tu vivi al mare, non vale, dovresti andare. Giuliano, dovresti smetterla, perché sennò poi qualcuno pensa male e grandina o succede, esatto, qualche cos'altro. Succederà. Non c'è problema, dal lunedì al venerdì può fare quel che vuole. No, ma il fine settimana, capito, sempre. Sì, perché non è sincronizzato, e qui è desincronizzato il fine settimana. Dovrebbe iniziare il lunedì, capito? Invece inizia sempre fuori sincronia. Vabbè, capito. Quelle cose con jet lag con la Sardegna c'è un po' sempre, un po' di differenza. Sì. Perciò c'hai un po' di lag, perché deve arrivare fino a lì. Già. Ok, vabbè ragazzi, allora io vi ringrazio tutti e saluto anche gli ascoltatori. Alla prossima, ciao. Alla prossima. Ciao a tutti.